Cattolice come Lullio, e l'ho lasciata come l'ho lasciata. Speriamo che stanotte non sia troppo forte, perché ho paura che magari faccia danno. Ah, K, non dovrebbe succedere niente, vai. Tu lo sai che quello che non succede in 100 anni succede in 2 minuti. K di Roccero. Questo cammino. Se sei rientrato, Mario. E io. Positivo accento. Se però si mi posso solo ascoltare, sto facendo il TV. K. Ho fatto tutto a pezzettine. Ah, ecco. faccio da parte. Allora, tu abbiamo da campare da batterie. Non esiste, no. Ogni tanto attacchi, dai. Campare oggi, no. Ogni tanto l'attaccheremo. Questo non è senza batterie. Questo è tutto senza batterie. Ma guarda, come io, da quando c'è il 550, batterie non è proprio più. Fatti. Anda a Benevena, questo Proxel è troppo di lusso. C'è un altro, tutto l'apparecchio, non prende più batterie. Già va bene. Già va bene a centro, però che ne fa di vince l'anima. Ti sento un assidico. E che mi sento ora? Attento, Sirico! Capito, perché affrettano bene. Capacità di alluminio, insomma. Sì, sì. l'alluminio c'hanno la carica, la molla come la mandorla, però radiali non li hanno, hanno qualche altro metodo per la ricezione, non lo so cosa ci sia, però ricevono senza radiali. Quella è buona, no? Aspetta, non dovrebbe spingere più di questo cannoncino, no? Sì, è un grido. Quella lì. Archimede, se ne ha comprato una per il laboratorio e una per casca. Ciao, no, sono Yogi, un saluto a tutti quanti, buona serata. Ciao, no, Yogi, è ora di merenda. Ciao a tutti. Ciao, Yogi, ben sentito, stazione Falchetto. Io vediamo se mi conosci, Yogi, abbiamo parlato insieme ieri. Tu eri, stavi tornando dal Ghero da pescare. La tavolata ce l'hanno fatta, vero, sai? Oh, presa l'anno. E allora? 600 grammi, ma c'erano i miliardi. Buono. A canna? Zappa. Ah, va bene, dai. Saluto io, mi compagnia, non ti dico il nome, devi riconoscerlo tu. Yogi! Scusate, ma non mi viene in mente. Non ti viene in mente? Yogi. Gianni, non mi viene in mente, diglielo. Guarda, te lo diciamo questa volta, poi memorizza, Gianni doppio rubio. Oh, Gianni. Gava. Qualche giorno la organizziamo una bella pescata. Perché anche a me mi piace pescare. Pronti, il punto d'appoggio ce l'abbiamo. Bene, sì. Ma cosa avete pescato? Da Ruccia? Dal porto. Verso fuori, così, dove passano le barche. Cappa. Non ho capito dove vi siete messi, già ho capito. Lì, lo sai cos'è? Che scappano le orate dal coso, dall'allevamento e... A volte sfasciano la rete, una volta c'era l'invasione di orate e facevano una gara per prendersi il posto. Addirittura una volta è dovuto intervenire la capitaneria di porto perché si bisticciava. Che sentino si è bucata la rete? Cosa? Sentino? Riparo già un attimo. Che sentino si è bucata la rete del vivaio, quello che c'è a largo verso... Da quest'anno? Bocca trarre che si fuggi tutti l'orate, così. Kappa, infatti le stavo prendendo, le stavo rilasciando perché erano piccoline. Kappa. Però almeno ci sono divertiti, una decina ne abbiamo tutto fuori, eh. E a sentino? E dove lo mettevate? Al nuovo vecchio? No, al nuovo nuovo, dove c'è... si rotta. Capito. Io andavo all'isolotto a Stintino, pescavo un po' bene. E che cosa pescavi però? Scavo di tutto, qualche orato. No, cosa in terra, no? No. Orata, ho pescato saraghi, sparaglioni grossi, dei beverdoni. Che ecco la roba lì. Una volta era riempito un secchio di cui lavare in terra di pesce. Ma non è sempre Natale. C'è stato in genere che ho preso il granato Molise in saluta. No, da Sintino no, però da altri busi, tipo la Porto Torres. Perché a Porto Torres ho pescato un bel po', A me a casa mi piace come niente, io esco qua da subacqueo, mi diverto molto di più. Ah, pesca subacqueo? Sì, mi diverto di più, mi diverto. Ma a me piace a casa, ti vesci dentro, ti fumi una sigaretta, tranquillo, va bene, ti mandi in un barino. Almeno non rischi più, già ci scende la lenta invece che scende il cilindro. Io ho rischiato la finta facendo pesca su qualche, quindi ho mollato tutto subito. Bisogna stare attenti, poi Russara come stava ammazzando, Russara come di quei massicci, c'era stato un filo e due così. Lo sparazzo l'ho preso sotto, lo sbudellato, tre budella pure va via, e andava, camminava, nuotava, tremandosi così, non ce la faceva manca a nuotare, si è andato sotto la roccia, ci sono sceso dentro, era una specie di caverna così sott'acqua, con una roccia inoltrata, diciamo. Mi sono incazzato dentro, non riuscivo più, nei cini, il pesce l'ho preso, non riuscivo più a uscire, né fuori, né dentro, niente. Mi sono incazzato, c'erano 7 metri di fondale. Il mare bisogna stare di tagli del tubo, e di lì. Qua non sono riuscito a sbloccare perché c'è tutta la parete piena di ricci. Come andava a cavare nei lunghi abbogati, mentre si entravano in tutti i pini di tutto. Qua non sono riuscito a salire su, mi sono attaccato al pallone, ho fatto... Non riuscivo più, non avevo più fiato. Capisco. Il falchetto è un pescatore subacqueo, lì da lui. Partito. E a farsi cicchetta andato. Finito di lavorare io. Siamo in città a fare un lavoretto per quanto via. E furgone allora? No, adesso sono i barra mobile. Cappa. Adesso poco fa mi stavo pensando un attimo con la pizza per il furgone. Ah, e che antenne messe? Ah, Sigma 80. 800? Sì, cappa. La PLC 800. No, non ho capito, a che pensa c'è? Sigma 80. Sarà la PLC 800, la 1000, boh. No, è 80 centimetri ed è... con la chiusura farfalla. 80 centimetri? Ma che cos'è di quelle caricate nere? Quelle nere con la molla. Ah, non capito. Io preferisco sempre, deve capire una cosa, che nella 27, nella frequenza dove stiamo parlando noi, l'antenna più alta è più va bene. Ah, poi fai delle sue macchine, ho la 180. Beh, sì. Sembro una macchinetta dell'autoscontro, ma... E dove l'hai messa? Senti una tua vettura. La mia è 2 metri, mi l'antenna. Allora, siamo in due. E in due, ce ne sono più di una in giro così. La mia forse è una delle più alte che c'è sulle macchine. Tanto non le ho viste in giro, Di grandi. Papà. Sì, perché forse ce l'ho solo io sulla macchina, l'antenna 2 vinto. Che macchina c'hai? La Station. Ma per cosa? Un Opel Station Vero. No. E chi è che ha una macchina di Station Vero con sempre Opel? Grigia. So. Grigia, dove le vista? Dove sta la regina Sassari? Quanto è baracchina? Cappa. Non lo so, sarà qualcuno nuovo. Non te lo so dire. Non mi risulta che ci sia qualcuno che abbia la Opel Grigia. Ma mi sto confondendo io con la tua. Porco d'asso, a me è blu però. Io mi ricordo che era grigia, perché c'aveva un'antenna grande, o c'è un attimino anche di radio davanti, l'antenna dietro. Sì, l'antenna dietro ce l'ho. Però la mia c'è troppa poca, se si riconosce da lì. Ora mi stavo confondendo. Forse. Non lo so. Non so chi possa essere, stavo pensando, ma non riesco a capire chi possa essere il diavolo. Vabbè, ci penseremo. Cosa? Carburo. Carburo, te la mangiate ancora? No, carburo oggi è andato a un funerale. Mamma mia, per carità. Avanti. Oh. Falche. Avanti, Falche. Sento, vuoi sapere il piombo di sembra? c'è bene. È chiaro. Questo non è l'Inter che abbiamo l'altro giorno, eh? Che senti? Sarà quello tipo nuovo. Cappa, quello digitale. Non è che mi piace la magia digitale, perché non lo so, non lo sai mai che segnale dare. Perché quando ti danno lì già nel 9-10, non so se 9-5, 9-8, invece l'altro è più perfetto, capito? Quello con la lancetta è più perfetto. Ma questo qui mi sto rendendo conto che è migliore, solo per una cosa, perché c'ha il pulsante nell'autoparlante e riesco a cambiare i canali tramite lui, quindi non ho preso, c'ha lo scan. Che apparatore mi ha detto? Differente dell'altro. E c'ha la down, il microfono, non l'autoparlante. Dovrebbe andare a 20 watt. Chissà. Cosa? Ho trovato lo schema per modificarlo. Per farlo a 20 watt. Modificandolo dovrebbe arrivare a 20. Dovrebbe. Adesso vediamo. E che te lo fa? Dopo decade la garanzia e ciccia. Che devo fare? Chi te lo aggiusta, chi te lo mette a posto, te lo fa la modifica. Io la faccio, se l'elettricista qualcosa dovrebbe saperla, no? Beh, è un po' diverso il lavoro di elettricista e da tecnico. Un po', diciamo, di schemi in più, di piste piccole, saldature miniatura. Poi chiamo la capo, no? Microsaldature le sai fare, mica vogliono fatte con saldature dall'aria, quelle di qua. Problem. Dai. No, c'è saldature a gas, quelli portati. Gas? La bomboletta? No, senza bomboletta, appena. Cavagava. L'ho pagato qualche soldino, già mi piace a me investire in attrezzatura. Dove l'ha preso? Angivici? No, l'ho preso da Losa, a Fattorino. Cappa. Non da bene. Sono saldature che ti possono servire in caso di fare una saldatura in macchina. Quando il cambio è attento, lo avviamo. Certamente. Poi ho voluto. Ma io ho quelle elettriche, quindi a pista a coso, non qui la pistola agli altri, da quelli lunghi. Quelli lì, diciamo che ne ho preso uno molto buono, mi fa delle saldature proprio perfette. Beh, il saldatore a elettrico è sempre migliore. Ma basta mettersi in macchina un coso, un trasverter di quelli che vanno da 12 a 220 e te lo metti elettrico, come abbiamo fatto già in altri posti. Un inverter? Eia. Un inverter da 12 a 220, non lo conosci, lo prendi, metti il saldatore e sali. Cappa, ce l'ha, che in barca? Ah, ce l'ha in barca? Che barca c'hai? Barca c'hai io? Non sei rimasto il pedine 4,50. Cappa, ma cos'è? Cammina? No, non sei rimasto il pedine, un scalpo Selemar, non lo so se la conosci. No. Avevo un amico che ci aveva la pilottina. La pilotina stessa, non so se la conosci. Sì, c'ho presente. Semicabinato. Esatto. C'ha le cuccette, c'è tutto. Ma io non ci devo andare a dormire, devo andare a tenere il pesce. ma devi andare a Muglio qua a pigliarlo. Non ti conviene quando sei in barca, pulisci la lenza e farti tranquillo sopra. Ma che già quello è il fondale marino da vedere, Mare. Già. Ah, stare in acqua. L'estate, prova a ballare. Ci sono andato. a Castel del Sardo, quella zona lì è pieno. Castel del Sardo, Portoferro. Capo. Portoferro c'è anche in Rifa. Un paio di stivali lo che non ha bisogno di va. Il cazzo, ma al porto, ma è il cazzo quello lì che è vicino. Non a Porto Torres, no, Portoferro. Ah, no, allora non ho capito. Porto Torres è vicino, non ce ne so. Non ne ho mai visto. Sì, lo sai cosa aveva Porto Torres? Andate di mare. Poi te lo sei andato a rumore a piccare, cosa si deve dire? Non ho capito. A chi te lo sei andato a rumore a piccare, Ivana? Pronto? Falchetto, ci sei? C'è un po' male. Io? E come sto uscendo male? Oh, sto uscendo troppo forte. Prova. Aspetta, ho sregolato il microfono. Così va meglio. Sì, un po' meglio. Tanto siamo un amico che ti vive della Sardegna che ti fa pelle. Sì, è la stazione del Tacomeo della Ville Sassari. Avevamo un amico qui della Sardegna. How do you do? Mi piace tu. Beh, io sono arrivato, ti lascio, nel caso ti ascolto, ok? Yeah, solo non parlo io però, e se non c'è nessuno non parlo solo. Va bene, allora ci sentiamo più tardi. Yeah, ciao ciao. Papà, ciao. Marchito. Ma era cinque. Cosa hai detto quello? Attari bene, sto uscendo, le tue coordinate, pago dronito. Dai. 1, 2, 3, 4, 5 si trova. 5, 9, là. Va bene, poi te la radio, il signor Vento. Eia, Liuccio, 5 la radio, dai, buono. Positivo, positivo. Già va bene, già va bene. E allora Natale, che ci racconti di bello? E io cosa devo raccontare? Le solite cose, sono soletto qua. Ah, KK, ma ieri eri in buona compagnia. No, sono soletto, sono io, Beata, cosa buona compagnia. Sono soletto qua. Sono sconsolato, ma io ci vieni a farmi compagnia. Ah, vengo io a farti compagnia, dai. Però mica la mia persona di luce, se no non ti voglio. Ma comunque la mia, a parte gli scherzi, adesso quando torno a salire la nostra signora di luce, se me la faccio dare una bottiglietta, una bottiglia, almeno una bottiglia. Cara gara, va bene. Così penso a te, dai. Sì, penso a te, Natali. Cosa? Tu che non ti stavo ascoltando, che stavo facendo una cosa al computer. Ho detto così, penso a te, per l'acqua di coso, di Nostra Signora di Lourdes. Ehi, tu sì che mi pensi, gatto, se non mi pensi a tu chi mi pensa a me, Già va bene, dai, già va bene, Natali, tutto capa. Ehi, anda bene, Meda. Eia, anda bene, Meda. E Giulio, chi lo sei? Antonio, ma io tua moglie contratti le ali, mia moglie, gatta, che oggi è la festa delle donne, gatta. Oh, negativo, proprio dimenticato, va. Gatta, ma come ti vedi, è per italiana, io con una carriera, vissa, no. Come minimo, come minimo. Ma chi c'è tra di bianco, mi? Io non credo già, già poco rimane da davanti, paghisci. Ah, lo sai che non lo sapevo veramente, era aperta la donna oggi. Io l'ho sentito poco fa, se no ne sapevo, e non mi... Infatti. E tu regalati dei fiuti. No, non ho regalato niente, io sono da solo, eh. Non lo so. Però... Buonasera, pirati comunque. Ma che vuole la voce di donna? Buonasera. Con la voce di donna, buonasera, ben entrata. Scritti, che? Che è Gianni? Una tocca. Luca, è dove lui? Siamo da solo lui. Oh, la voce di donna. La regalate. La voce di donna era. E prima voglio affiati. Avanti, buonasera, avanti con la buonasera. Buonasera. Mi ha detto, come sì. Eppure il primo passaggio mi sembrava la Roma, eh. Allora, ho lasciato la gente. Stanotte mi hai regalato a moglie. le regaliamo le rose stanotte. Rose. Cose rose per te? Le mimose. Le mimose, le rose. Solo i gentiluomini fanno questi regali. È vero. Come già mi caldo non c'è ne... Lui sì che la moglie deve ancora regalare, perché mi sento un cazzo, se vuoi fa. Certo. Pagava. E poi la pagina da te non vuole regalare. Io non sono fidanzato, non mi ho ragazza io. Siamo amici, non me ne regalate lo stesso. Ma chi è? Chi è questa? Chi? Carissimo pacchetto! Carissimo! Beh, finita lì, avevi. Va bene, Lucariello. Torna normale, Luca, torna normale, Luca. Ma io cammino a casa, corri. Ti sei già di doppio ru? Ti sei già di doppio ru? Ru! Ru! Ru! L'Umbria come traffico! Ah! L'uno mi chiama Ru, l'altro mi chiama Ru! Ru! Doppio Ru! freddo, io ho detto che non lo so se ci va. Troppo freddo, cioè, ci hanno invitato ad andare, ma cosa fai? Io ho freddo da morire pure. Mi senti io? Tu non puoi entrare, tua moglie sì! Intanto anche i maschi, non c'è problema. Tutte le volte che le hanno fatte queste feste qua, io ho visto anche i maschi entrando. Grazie. Oh, ma chi è? Chi è? E lui è una signora entrata qua, chi è questa signora? Buonasera signora, ben entrata. Buonasera signora, come ti chiama lei? Io? Sì. Ehi, tu come ti chiami? Io mi chiamo la signora Falchetto. Questa è la madre di Gina. Ah, signora Gina è lei. Buonasera signora. Gina! Ah, Luigina? Vicina! Ah, la signora vicina! Dio la madre, io non riesco a Dai, dai, facciamo le persone serie, vai. Buonasera, comunque, signora, sei lei, eh? Buonasera anche a lei, mi raccomando, stanotte faccio una gara a sua moglie. E senz'altro. Trocchetto della felicità. Le regalo il trocchetto della felicità. Te l'ho regalato. Ai ai ai. Oh signore. Signore. Ma sei a casa o in macchina? No, sono a casa. Allora la moglie è lì. Esattamente, con Manganello. Che manelle sono queste donne? Manganello è. Ma il mio marito mi tratta bene, non mi maltratta. Anche a me, guardi. Mi ha dato un diamante. Ah, non è fortunata lì. E tu sei fortunato, vuol dire non le dai niente a tua moglie. Non le regalo niente perché non ho niente. Caro solo l'amore. L'amore, quello vuole tua moglie, amore. Amore, amore, sì, sì. Amore, tanto senso. Non senso, non senso. Con due S. Non senso. Mia ricevuto. Adesso è anche entrato Pomponio. Oh Pomponio, mi senti Pomponio? Sì, buonasera, dica. Non volevo dirle se mi ha riparato quell'apparato. Ho messo la chiave, ce l'ho la mia 50. Mi bene, Giulia. E la prendi se abbiamo, se abbiamo la molletta per tagliarle? Avete parlato in cinque. C'ho la molletta per tagliarle. E poi usiamo quello che usano i pompieri per tagliarle. Sì, sì, sì, sì, arrivano i pompieri e fanno tutto. Io non devo fare bruse, quindi, no, no, no, no, no, Natali, quello non lo fanno, è che sono delle persone abbastanza gradite e buone. Se li chiamano pompieri. A pompieri. E pompieri. Dai, dai, facciamo le persone serie. Ma che sia, però. Dai, facciamo le persone serie. Ma sono delle donne. Chi è da quella parte? Viva le donne, viva le belle donne, che sono le colonne dell'amore. Bravo! Viva le donne, viva le belle donne, che sono le colombe dell'amore. Comunque ha perso la chiave. Colombe! Ciu, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu. Sei qua. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Non è quasi uso, bravo, Bobo. Alessio! Che casa gli uomini, che da noi devo andare all'ospedalello! A me mi pare cosa, mi pare che giù. Attenzione, attenzione, mo te l'ho riconosciuto. Ti ho riconosciuto, Barra Agricola. Chi è, Falche? Barra Agricola. Ma cosa, no. Ti l'ho riconosciuto bene. Che casino, Vecchietto. Non c'è problema, non c'è problema. C'è anche Mario. Mario, buonasera, Vanna. Ma cos'hai riconosciuto tu? Ma guarda il segnale almeno. Io? Io? Sei tu! Sei tu, delusa. Cerca di una scusa. Tu chi sei? Babbo. Ma chi sei? Ma tutto senza le ali. Ciao Falchetto! Ciao Natalina! Io sono troppo Diana! Diana sì! Oh mamma mia! Senta che tua moglie non faccia niente! Se c'è grafo guai! Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai, queste parole, queste parole, queste parole! Ma ti sei fatta di sì? Cari faccia! Sì, sono di Sassari, tu dove sei? Sì! Sei tu? No, sì. Di Castiglio sei? Ma no! E dove? Che zona? Che cosa? Sono di Sassari! Sei di Sassari! Ma tu sei di zona, a me? E di zona? Che così mi ha detto? Sono travestito! Travestito sì. No, no, sono una donna. Ma che donna, ma che donna, ma che donna. Rauca. Rauca sì. Ehi, amica da qui, mamma. Ci sono scena, senti. Ah, io facciamo le sire, no, ma non si capisce niente. C'è una pelata. Anna. Pelata sì. Che faceva io? Beh, continuate, continuate, là, vi lasciamo continuare oggi. Perché la festa delle donne, lasciateci divertire. Cose di donne. Cose di donne, bravo. Oh, io. Mario. Ascomando al posto. Cosa? Telebrea! Come? Aspetta. Non telebrea! No! Lei tremonta! Tu! Aspetta un attimo, Mario! Non dica sì! Faccio il TV e non posso parlare! Quasi quasi banale, mio oggi! Io? Mario! Ma c'è troppo bacino! Non posso parlare, faccio TV. Sì, sono qua, faccio TV, ma non te la messa così, come ho detto, mi ero due. imbarazzare. Ma quando dici così, Pomponio, mi fai spaventare. No, adesso basta. È finita l'era di piccolini, devi allora pompare come una volta. Adesso sabato, se fa bel tempo, la bella giornata, allora mi diritto a pulire un massimo, allora 2 ore quello che sono, poi la tua lo faccio schiattare e ogni giorno con gli altri li faccio schiattare da lì. Ah, che bello. Ti chiate una piazza. Quanto vale a tutto? Altre vendute. Mi facevo io quella, se l'ha presa Mario, ecco, ha chiamato vale a tutto. La contratta. Allora. Antonio è sparito. Accende, accende. Vedi che lo voglio. Che cantello pesce. Chi è, chi è? Il ruolo mi ha fatto. Antonio. Ti manchi. Dimmi, dimmi amore, vieni avanti. Che c'è? Che c'è, che c'è? Allora, facciamo un patto. Al masso, al masso. Quanto vuoi fare? Mica sta qua, che cosa facci? Ah, bastardo. Facciamo un patto. Dimmi questo patto. Ma c'è di tua moglie, se è vero che ce l'hai di tua moglie. Cazzo, non fregami. Oi, giovanotto, non scendiamo nelle camere di mezzo, Nelle camere da letto. Finché si scherza va bene, ma... cerchiamo gente, lo sta cercando, Occhio ombre, se Caracas, se no io faccio anche il doppio, non mi metto problemi, Ma io ci vado di mezzo. Amore, fai la brava, fai la brava. Scusami. Ma c'è un problema, fai la brava. Io volevo salutarlo perché oggi è la festa delle donne. Non c'è problema, non c'è problema. Non ti sei offeso, no? Sì, per carità. Ma ce l'ho rotto. Non ci mancherebbe Austria. Va bene, non ti disturbo più, ciao. E qua mi fanno, fischiano tutti. Qua fischiamo tutti, non problem. Buonasera, ben sentiti, a tutti quanti. Buonasera, ben sentito. Che si dice di bello? E oggi è la festa della donna. Oi, oi. Ok. Non ti ricordavi il nome, dimmi. Sì, ho sentito la campagna, non so, sono stato ben poco fa. Mi stavo rilavorendo. Sì, volevo... ma che è stato Giuseppe Passera? Non è che l'ho sentito, no? No, negativo. Vabbè, allora me lo passo in 2x, ascolto. Ho chiamato il telefono, non risponde, e per questo sto facendo qualcosa. Al limite lo paga. D'accordo. Andrà bene, Mera. D'accordo, d'accordo. Ok. 2x, Alessi. Ma non facciamo mica quelle che vuole la birra veloce, tranquillo io. Non mi pensa di soldi poco fa, no? Ecco, già Sassari. Città di Sassari. Che chiama, va. Ah, va, perché chiama Città di Sassari. Città di Sassari si è perso. Ma tu? Che dimmi? Mica la mia 25 anni, stavo scherzando, non ti sarei offeso. Altro, capitano, è Natale, già lo sai, non stiamo a scherzi. Io che no, l'importante è quello, e adesso anche scusa. Ok, ma riprende tra i 9x. Ah, ma Rogero, salutone la tua 25, Natale. Chiami che tu? Sì, io. E tanto, tanto? C'è già now. A donna come tanto, sa? Ah, io sono in orizzontale. Che che? Bucata. E su che? Vedi da sede. Dai, ho già cenato io. Posso anche permettermelo di sdraiarmi, no? sono una cosa all'altra, oggi fa che c'è un sacco voce, sono andato al dentista presto, non mi sono manco riposato quando sono tornato a casa, né niente. E a proposito, cos'era a proposito del dentista? Cosa avevi in pensione? Allora, ho dovuto fare la pulizia dei denti, dico quanto, mi ha fatto vedere l'estero perché mi ha premuto le gengive. Aia. Avevo un'infezione là. Adesso comunque ci sta passando. Beh, cappa di noce. E già va bene, va. A pagare. Anda bene, bene. Iaia. Anda bene. Cappa di noce. Chi è rimasto? Poponiello, te l'è venuta sta birrotta. Facciamo una tua per mamma, per me la. Cioè, ha vinto fa poco. Oh, è tipo un finale per andare a prenderti la birra, non mi ha fatto altro. Ho capito, dimmi. Cosa hai fatto già? Se devo andare a prendere la birra di mamma. Che importante, Ari. Se andava a casa mamma a prendere la birra, poi salgo qua. Pagava, ho capito. Ho capito, dai. Sono mettendo la portata comunque. Mi papà fino a tua sera, senza papà fare questo. Allora papà il tabacco, ma si lavora allora, quindi devo andare a girare il rosso e a piedi. A cercare il tabacco. E lì non c'è il tabacchino lì vicino. Ah, che c'è tutti il giro di tece. Se va secca lì. E c'è signora Maria, ma non l'ha già chiesto. Capito? Ma ti va bene se ti pone la portata? Sì, che bello. Lui che mi ama. Ma non è molto alto, è Santiago 9. Sì, come fa bionda? Mi risente, la portata è 9. Cazzo? Ma passo. Ma voglio. Allora. Sì, mi già. Quanto ti arriva la portata? Non la sento io. No. E allora chi su... chi si azzinchivi, vedono la navica in russi? Senz'altro. Seguito, magari è andato a cenare. Non sta pari torna da lì. Non sono stato un po' cosa dovuto andare a aprire. Caspita, stavo sempre chiamando, ho detto, ma grande signor Venente, che è andato a caricare. No, vabbè, avvisato. È che non sono andato, mi hanno portato, avevo prestato un coso, un caricabatterie, e me l'hanno portato perché il telefono mi aveva abili tre ghetti, e va. Poi non tornano più indietro, se ne dimentica. Ora te l'hanno tornato? Te l'hanno tornato? Sì, me l'hanno portato adesso. Se non sono le cifre però non ti ne arriga, perché non mai uno hai preso una cosa e non gli viene il dovere di ritornarla. Sempre così, sempre solite cose, va già, sempre solite cose. Io sono sempre contrario a prestare la roba per quel motivo lì, perché io sono scrupoloso, se mi presta una cosa non vedo l'ora di ritornarla. Invece gli altri si vogliono mantessi. Non mantessi problemi. Sì, infatti. E io sono stesso, vedi, se mi prestano una cosa è in presto e basta, finché te la danno una cosa è data, ma quando te la prestano non vedo l'ora di tornarla. Chi si sta divenendo da Pierpaola? Vicino a Pierpaolo? Io sto mettendo la portante, cagarro. No, la portante sta mettendo. Sì, sta mettendo il televisore, di tutte fette, di tutte di più. Basta, è toccato già, dove sta il problema? 11 Alfa. No, ma spassa 10, canale nostro. Cappa, cappa. Cappa Roberto, però io qua, nel mio apparato, ero su 10, capito? Ma se ti sposti di 10 kHz, vai sul canale 11, perché il canale 10 è 27,075, più 10 fa 27,085, canale 11. Non esistono gli alfa tra 10 e l'11, ricordate, ma c'ha ragione Luca. Ah, un canale. Noi ci siamo spostati perché disturbava. Così ti da lì non ci ha più disturbato. Cazzo, ogni donna, ma perché? Guarda, ma mi fa con me, sei un regalo, Sono una puttimunda, io te lo regalo. Però se perdi mi metto quello che c'è tu, ci sai? Ma non mi ha detto che come stanno? Noi eravamo... E già il mio Pierluca ha detto, lascia stare sul 10 e vai in alfa. E sono andato in alfa, tutto qua, Luca. E Luca, da un certo punto di vista c'hanno ragione anche loro, perché alfa si sono spostati di 10. Però se tu da 10, da 27,075 gli aggiungi i 10, vai a 27,085, che corrisponde al canale 11, non è un canale alfa. I canali alfa sono una via di mezzo tra 9 e il 10. Quello è il canale alfa. Mi sembra poi c'è il 13, com'è Luca? Non me lo ricordo adesso l'ordine. Allora, tra gli alfa sono tra il 4 e il 5. Ok, cioè tra il 3 e il... aspetta, allora tra le alfa è il 20... no aspetta, scusa, roba, tra il 4 e il 5, una via di mezzo, poi c'è tra l'8 e il 9, tra l'11 e il 12, sono andato anche uno qua, tra il 14 e il 15 e il 17 e tra il 19 e il 21. Sì, a memoria più o meno sono quelli. Infatti loro hanno chiamato canale alfa spostandosi col tastino, però quando si sposti dal 10 all'11 col canale alfa, cioè i 10 kHz dal 10, ti sposti 10 kHz e vai a finire al canale 11, non esiste un canale alfa dal 10 e l'11. Attenzione canale 10. Comunque, mi sono sbagliato, tra il 19 e il 20 non è il canale alfa, 19 alfa diciamo, no? Sono 4 qua, 1, 2, 3, 4, 5 canali alfa, sono 4, 5. Franchetto, dimmi, resta qua, adesso faccio come l'ho detto loro, vado sul 10 in mattinata, volevo essere sensi, dai, dai. Ah, io ti sento all'11, ti sento, vai. Franchetto, mi ascolti? Io sono all'11, adesso normale. Io ti ascolto benissimo, già 11, 27,085. Franchetto, mi ascolti? Perché sei al 0,95 già, non ti può ascoltare? Beh, io non li sento. Vabbè. Ti volevo... Roberto? che cosa era, no? Se mettevo su 10 alfa che mi si fa su 10, così lo comprendi. Gianni, non esiste il 10 alfa, esiste l'11 alfa. Vabbè, facciamo 10 spostate 10 giro, per non dire che cazzo fa questo giro del tuo alfa. Ma comunque, risulta 10 giro sono più su, quindi è andato sull'11, così almeno lo capisce che è così. E io cazzo, cioè posso aver sbagliato anch'io, non è che io possa ammettere che ho sbagliato, però non potevo usare tutta la sera per mettere di chi sul canale. Io sull'11 non mi sentivo, per esempio. Tu lo sei sull'11, perché tu eri sull'11 alfa adesso, per forza non lo sentivo. Vai sull'11 normale, perché che io vado sul canale alfa, vai su 10 alfa. Come te l'hai detto te sullo stesso canale? E come io dico, vai su 14 o sull'11? Io sono sull'11 normale. Mi senti? Tappa che ti sento. Ecco, sono su 10 su. Ha ragione, ragione. Sono ancora, sì. Io la pompella, ragazzi, non ho ricevuto la tromba, mi sei stato zitto, perché io non conosco le frequenze. Sono lei che non conosco le frequenze. Non conosco i canali alfa. Scusa, già. Adesso io sono qui in alfa, guarda, ho messo il tattino qua, e mi ha autoascolto con la tromba d'acchino. Io non ce l'ho, è giù, uscire di qua di cazzati. È giusto, c'è una tabella qua. Allora, io ricordo arrivo a 26 MHz, no? Arrivo a 26.985, poi 995, un canale alfa, capito? E allora, questi canali non ci può arrivare. Ma ci vuoi facciamo anche la prova, Ammetto di aver sbagliato, non è che... Però c'è questo qua, va bene, quali erano i canali alfa, non mi ricordavo 10, ma c'era l'11. E ero da tanto che non li usavo, quindi non mi posso ricordare che cose che stavo 30 anni fa. Non li uso quasi mai i canali alfa, capito? Andiamo solitamente su 19, anche il 19 c'è alfa però. Che dice proprio chi sono i canali alfa. Comunque sicuro la memoria mia c'è l'11 alfa, il 19 alfa e mi sembra anche il 21 alfa, sicuri. Poi mi sembra c'è anche qualche altro, Luca, quasi anche più basso c'è. No, 5 Roberto, ma tu li ho detti. Aspetta un attimo, che qua mi devo segnare le 6 ore, ho fatto luci, cantiere, se no però chi fate il guido, mi bagagli, mi bagagli. Attenzione, c'era Domenico, avanti Domenico! No, c'è anche il 19 e il 21, lo sai perché te lo dico? Perché io ho i quarti per quelle frequenze, me ne avevano dati Giulio Dollaro, erano proprio canali alfa, te lo dico con certezza, adesso non c'ho qua sotto mano il libro, se no ve lo dicevo esattamente. Comunque esiste anche il 19 e il 21, anche se probabilmente più usato è l'11 alfa. E noi ci fa quello che mettevano nei baracchini, tipo il Toccai, roba del genere, che c'ha 23 15 alfa. Sì, adesso non lo so male dell'epoca, però me lo immagino, perché io c'avevo un baracchinetto di quelli a tre canali e c'aveva uno di questi canali fuori frequenza, probabilmente come stai dicendo tu, non lo so. E Coso Giulio mi aveva dato i quarti per metterli sulla frequenza normale, di ascolto normale. Ecco, mi è sparito il libro dove c'erano queste cose, non ho capito che era pigliato, buh. Raga, più adesso possiamo andare sul 10 alfa. Sul 10 alfa? L'11 alfa. 11 alfa è 27, ma poi te ne accorgi già, lo sai, guarda l'11 è 27.085, tu te ne accorgi quando giri, se c'è il frequenzimetro te ne accorgi, per cui quando c'è questo spazio c'è una via di mezzo, si chiamano canali alfa. Benito! 45 è canale 11 alfa. Canale 12 è 27.105, ci sono 20 kHz di differenza, hanno fatto un canale intermedio, infatti non 5 l'11 a 27.105 il 12, c'è un buco di... puoi mettere in mezzo, quello c'è il canale 11 alfa. E si è fatto con scopo, non per avere i canali alfa. Ma sono poco usato, io non li uso quasi nessuno. Io sono entrato, sono un qua, fanno ben freddo, non ho freddo a nessuno. Non è adesso, Alfa, cosa fa 11 Alfa? Ma sa, 11 Alfa dove tornare? Ma sono qua, no? Non c'è 11 Alfa, sono andato 10 kg, vai, sono andato, vai. Che ci sei? Gappa che ci sono. Questo qua è 11 Alfa. 27.095. Allora, qua il baracchino mi segna 11. Ho sollevato il tastino, cos'è? 11 Alfa? Veglia. Oh, capparoce. Anda bene, vero. Gianni. Veglia. Ma tu che baracchino c'hai adesso? Baracchino. Non c'è frequenza in metro di galaxia, non te ne accorgi su che frequenza sei? Non te l'ho detto che su che frequenza ero. Te l'ho detto 27.095. Era poco fa perché stavate insieme, allora non ti ricordavi il canale, a quanto corrispondeva il canale 11, per quello forse l'hai detto. No, ero convinto che era così, te lo dico la verità, ero convinto che anche lì ci fosse altro. Vabbè, guardate capire come funziona il discorso, non ci sono problemi. No, perché sembrava Luca che stesse dicendo fesseria, ha detto, ma voi ci ho pensato, ha detto, Gianni c'ha il frequenzimetro, anche lui, mentre tu fai che non è il frequenzimetro. Io no, però su 10, quando sono levato il tastino, parlavo benissimo con Gianni. E ma eri sull'11, non era alfa. Ah, cavagava. Però l'apparato era sul numero 10, non un numero 11, no, numero 10. Ragione, ti capisco quello che stai dicendo tu, però non esiste il 10 alfa. E corrisponde al canale 11, perché se ti sposti di 10 kHz vai a finire sull'11. Mentre esiste l'11 alfa, che se ti sposti di 10 è una via di mezzo tra l'11 e l'12. Ah, cavagava, abbiamo capito, Io recupero l'analisi e non che mi accontenta a bisbenno. Per i baracchini, eccetera, eccetera. E Luca diventa ricco. Io si arricchisce troppo, Io non sicuro di quello che stavo dicendo, Roberto, cioè non mi sbaglio, cioè era la tabella davanti. Ma poi io mi ricordo sempre che siccome stavano con questo qua, si trovava a fare 0,95, capito? Ma scusa, adesso la bisogna puttiglia io. Ma se io ero sul 10 normale, no? Ascoltatemi stai. Dico sul 10 normale e sollevavo il tastino sul 10 sempre, sul numero 10, e parlavo con Gianni sul numero 10. E cosa vuol dire questo allora? Tu va a piacere il gusto, questo un dico. Ti sto dicendo, se tu vai al 10 e apri tastino, vai all'11, ti fa un canale. Se tu vai all'11, ti fa un mezzo canale. Ancora visi. Quello che c'è, capito? Ti sposta solo la frequenza. Quindi tu non te ne accorgi. Se sul 10, sul 10 rimane. Però non è il caso di non spostare 10 kHz, portandoti e spostandoti 10 kHz la frequenza te lo fa andare sul 11 normale, hai capito cosa ti vuol dire? Capo, ho capito. Se sai cosa te ne vai sul canale 1, tu dici sto andando sull'1 alfa, invece vai sul canale 2. Ah, capa di roccia, dai, fate l'amore, non fate la guerra. Sì. Allora, bisogna capire questo, che non tutti i canali sono alfa. Beh, ci sono quelli alfa e quelli che no. Quelli che sono alfa sono disposti in 20 kHz. E invece gli altri hanno 20 kHz di spazio, diciamo. Mentre invece gli altri sono 10 kHz e lo spostano all'altro canale. Benissimo, hai detto benissimo già. Tutti i canali, quei pochi canali che sono spostati di 20 diventano alfa con i 10 kHz, se no, perché sono tutti i canali su 40 e almeno 35 saranno tutti quanti spostati di 10. E poi si è contata una cosa, il 23 anziché salire diminuisce da 23 a 24, l'avete notato? Non è capito, no. Io sugli alfa ti ripeto, stavo andando solo quando disturbava quello lì a Piampola, andavamo su 19 alfa. Poi non so se 19 ci sia, ma penso che il piccolo di sia. Mi sembra sia 21 alfa, no, se tu guardati il canale, la frequenza del 23, Luca c'è la tabella di frequenze, guarda la frequenza del 23, non è, che per dire, se è 23.150, la 24 dovrebbe essere 23.160, invece diminuisce, controlla Luca. Certo, quelli sono, no, arriva sia a 19, tra 19 e 20 il canale alfa. No, non mi sono spiegato, ho detto guardati l'elenco delle frequenze, guarda la frequenza del canale 23 e poi guarda la frequenza del canale 24, anziché salire di numero, diminuisce. Ah, sì, vero, così è. Siete due sei preparate due, allora, la frequenza del canale 23 quanto è Gianni? 23, 2, 6, 5. Ed è il 24, 23, 2, 5, 5 se non sbaglio, così è. Ecco un attimo. 24. Anziché salire è di 10, diminuisce di 10, controllo. 17, 2, 4, 5. Appunto, diminuito, hai visto? Anziché salire a 2, 6, 5 scende di 10. Infatti quello l'hanno fatto perché prima i canali dedicati alla CB erano 23 quando è uscita la legge all'inizio, poi hanno dato delle frequenze, hanno ampliato le frequenze e le hanno portate per 40 canali e sono ripartiti da 45, 27 come 2, 4, 5, così è il 24. No, il 24, il 27 è 2, 4, 5, mentre il 25 è 2, 6, 5. O due, sì, contro adesso non c'è, non c'ho la tabella sotto mano, mi dispiace. Poi io non ho la tabella, ce l'avevo sparita, non mi ricordo più dove l'ho messa. Ce l'avevo proprio di cara. Così, vabbè, già, però. Guarda, aspetta, te lo dico io al volo. Allora, il canale 23 è 27255, il 24 27235, 25 27245, 26 27265. E da qua ritornano, ci sono due canali che diminuiscono anziché salire, il 24 e il 25. Sono meno, sono di frequenza più bassa del 23. Aspetta, più la tabella io, eh. No, no, io ho il baracchino avanti, non ho la visione di tabella. Ce l'ho con frequenzimetro digitale, non ce la sbagliare. Che saltano tutti di 10 kHz, dall'1 in su. E a parte i canali alfa che saltano di 20. Poi come arrivi al 23, che il 23, te lo ripeto, che cos'è? Il 23 è 255, il 24 anziché essere il 23 265, diventa 27 235. Di 20 kg, quindi dovrebbe esistere anche il 23 alfa di canale, Gianni, aspetta, no, il 23 alfa non esiste, no, no, il 21 alfa esiste, aspetta, anche, esiste il 19 alfa, il 21 alfa non esiste, Gianni. 19 alfa esiste. Ma che cagnara, sbagliando si impara. 19 alfa. Vabbè, ci abbiamo fatto una cultura sui canali pure. Ma c'è qualcuno altro su questo canale? Andiamo, già, facciamo una cosa, andiamo sul 21, cioè che poi qualcuno non riesca a sentirci. No, io sul 21 non ci vengo. Ma cosa è successo? No, ci vengo, non ci voglio venire sul 21. Noi siamo sul 10. Non è 10 il canale. E vabbè, vabbè. Già ci trovo, vabbè, passiamo sul 10. Io so già, ma io sto dicendo se vuole entrare qualcuno, no, me ne ha tenuto poi, cosa vuol dire? Allora, 20, cos'è? 27, 0, 75, 10. Eccolo. Questo è 11 comunque. Ciao Peppa, no, non so, eravamo con Gianni sul, canale 12 alfa, 11 alfa, Aspettate un attimino, scusate, c'è Giuseppe che c'ha un problema, c'ha un rumore, scusate un attimino, Giuseppe. Sparisce un po' anche quando parlate voi. Adesso chiuso la comunicazione per Baba e Fabiano dal birichino. Sì, infatti. Ascolta a me, il portatile si fece attaccato al terminale, te lo fa? Allora, il portatile è per conto suo, Pierpa, con l'antenna sua, addirittura mi sono spostato anche di stanza, e niente, è sempre quel rumore fisso. In un primo momento credevo di avere sotto controllo l'antenna, però niente, col portatile è uguale, preciso identico su tutti i canali. Guarda, lo sia che avete attaccato qualche cosa? No, avete attaccato qualcosa di recente, di roba elettrica, qualcosa? Ma aspetta un attimo, faccio spegnere tutto, aspetta un secondo. Perché potrebbe essere qualche armonica di qualche presa che avete attaccato, capito? Oppure semplicemente è qualche cosa che sta disturbando il palazzo, c'è qualche roba elettrica. Avanti Gianni, scusate. No, figurati, per pazzo. Volevo sentire Giuseppe. Cava, cava. Questi rumori strani, sarà l'antenna, il suo ripetitore di lentini. Oh, ma è un rumore strano già, io l'ho sentito via telefono, è una specie di tipo motore, ma forte, fortissimo, adesso vediamo se riesce a individuarlo a casa, che non ci abbia qualche cosa, gli stia dando fastidio a casa, se no è nel palazzo. No, niente, Pierpa, qui abbiamo staccato tutto e lui continua a suonare, sembra come un organo, cappa. Allora, Giuseppe, è qualche cosa che ti sta dando disturbo, o nelle vicinanze o cosa, beh, finirà, dai. Già finirà, non è niente di particolare comunque, scusa Romè, dai, riprendi, dai. No, non c'è problema. Giuseppe, ma sono su 10 te lo fa? No, su tutti i canali, adesso ve lo faccio sentire, un attimino solo. Il rumore adesso come per magia è scomparso. scomparso. E allora che cosa? E i malari stavano facendo, perché quelli lavorano anche di notte, c'era qualche quattro lo stavano riparando, vai. Adesso QRM è praticamente a zero e sento benissimo, mai sentito così forte e chiaro. No, poi mi sono tutto a posto, allora mi è cessato. Cappa Pierpaolo, a meno che non hanno sentito la tua voce poco fa e hanno detto, no, che conveniva in pressa. La mia ragazza che la spettina gli ha spaventato. Non è sceso il peggitore al corpo del vento. Beh, sicuramente ne farà così. Ma speriamo. Ho fatto una prova Pierpa con il portatile in cucina ed è assolutamente perfetto. QRM nel portatile è praticamente zero. Ok, accessato, va bene, là. Tutto a posto, ok. Vai Gianni, vai. Addirittura non sentivo nessuno qui in modulazione, no, e addirittura ho pensato che ci fosse un qualcosa in giro che stesse controllando. Infatti ho detto, io questo rumore non l'ho mai sentito, e sembrava come una misurazione, cioè queste onde strane, cioè, e tu hai presente un organo che ogni 5 secondi schiaccia una nota diversa, si va a salire, così era quel rumore lì. Gappa. Vabbè, là, ce l'ho sentito siccome era un bel fastidioso. Kappa di positivo. Dai, grazie a Dio è passato tutto. Dai, facciamo girare e su che andiamo. Salutoni Giuseppe da parte di da stazione Falchetto, salutoni anche a Vera, ben sentito, ben entrato e niente, dai. Tutto è bene, ciò che finisce bene, Giuseppe. Kappa di positivo, saluti anche a te, cordialità, amico Falchetto, Kappa. Due sono le cose, non hanno aggiustato quel ripetitore nella lampada di Rovento, non sentite più di me. Infatti. È più probabile che l'hanno aggiustato, comunque dai, non penso che il vento non lo butti giù. Ma siccome c'è un po' di umidità qua, c'è stata qualche dispersione di qualche cavo di alimentazione, perché se era una variazione di frequenza, vuol dire, siccome lavorano a diverse frequenze con ripetitori, se era un rumore fisso sembrava una pompa di calore o un autoclave, il rumore fisso, però cambiava di tonalità, per cui era... Quello è su Marcetto. Ma per vanno le bambine che si stanno bisticciando, scusate un Carissimo Falchetto, perché non mi saluti? Oh, carissimo! Già va bene, di rientro? Di rientro anche lì? Questa faccia si completa, sicurezza, sai che questa è anche vera. Ai. Oh, Gianni! Ehi! Che ti sa Falchetto, la fretta? Oh, buonasera, vera! Ben sentito, ben entrato nel canale. Però metti io lo giallo che mi faccio. Vabbè, sempre se ne trova le saluti, sempre vela. Tu lo vedi, giro per il canale, no? Senza pensare che il 10 non è alfa e sono andato a finire sull'11 passando sul 10 alfa e stavamo parlando di quello, lo Falchetto, lo sbaglio l'ho fatto anch'io, dico la verità, ma Falchetto non riusciva a capire che può volta qua sulla dispregia, ma io ci avevo segnato 10, sì, ma ti ho spiegato che la frequenza che si sposta, non il canale. Il canale, se tu vai di più 10 kHz, ti sposta nell'11. No, se tu sposti di 10 kHz, se ti ho 10 kHz, sposti di 10 kHz, vai sull'11, normale. Se sei sull'11, sposti di 10 kHz, se invece vai sull'11, alfa. Se, così mi ha dicendo, se vai per esempio sul 12, sposti 10 kHz, vai fino al 23, poi invece dal 23 salta. Salta perché c'è uno spostamento di frequenza che non va normalmente di notte, comunque lo tengo da 23, no, addirittura torna indietro, poi va normalmente come te, comunque torna indietro. Ehi, vabbè, ma siccome l'ho messo per 130 anni, non mi ricordavo che dici non era alfa, però qualche tempo la ragione mi dice, voi per 10 segnati, ma poi siamo puntati di 10 kg, io già non lo sentivo, lo spostato, e se facciamo il 10 normale non lo sentivo. Ma quando tu ti sposti 10 kHz vai sul coso, sul canale normale, mentre invece nei canali alfa ci sono 20 kHz di spostamento. Negativo, negativo. detto, è sempre presente, K di positivo, e riprendi te la fai che? Pesca d'attesa solo io, la pesca d'attesa. Roberto! Dimmi, Pierpa. Ah, già ci sei. Sono andato a controllare, non è successo niente, ma mi hanno levato su, su un po' di strilla, stavano cantando, cacchio, ma sembrava la stessa lo scorso anno, la piccolina. Anche io ho sentito che stavano urlando. Sì, ma è stato un urlo forte, mi sono spaventato e poi ci sono uscito correndo, invece non era niente. Le ho dato anche la mia scolaccia, a non farlo più perché mi ha spaventato. No, guarda, io ero con la cuffia, ma letteralmente ci ho fatto l'orecchio. Devo sapere, mi sono spaventato, pensavo fosse successo cosa a mia moglie, e sono uscito correndo perché ho sentito tipo mamma, sei là, ok, pensavo fosse successo qualcosa. Gabba, gabba, no. Vai Giuseppe, vai. Tutto bene ciò che finisce bene. E dimmi una cosa, Yogi, tu lo sai chi sono io? Però voi siete molto, pretendete molto, io sto iniziando, aiutatemi anche voi. Cappa di positivo che ti aiutiamo. Tutti quanti a rubare i cestini delle merende con Yogi, aiutiamolo. Allora, la prima cosa da sapere è che la radio al massimo si dà 5, non 7, e 7 non esiste in radio. Quando la radio è proprio perfetta si dà 5, poi sempre se la senti quasi perfetta 4, poi 3, poi 2, poi 1, quando è proprio bassa. La radio si dà orecchio, invece nello speaker, nello strumento che c'è nell'apparecchio, si legge Santiago. Positivo, buono sapersi. E questo Yogi, Roberto, comunque da questa parte, dove stai modulando? In movimento o fisso? Sono in barra mobile e sono in direzione dei punti. Ah, va bene, no, stai andando bene con quel segnale. Segnale 9+20 da questa parte, radio chiara 5. È rimasto qua in questo canale. Allora, c'è rimasto Carburo, Yogi, Giuseppe. Il pacchetto, il cane di occhio rombo, c'è una benzina anche Antonio il popolo, poi non so, mi sembra aver sentito anche quella vera brutta, alto, brutto, grosso, barbuto, peloso. E anche la parte mia? Magari che fa questo brutto barboso. Ma che fa? Quello che lo chiamano vera, brutto, barboso, c'ha la barba lunga lunga, tutto peloso, Comunque adesso cambiando il discorso, ma di Capri cosa è successo? Raccontatemi. Ah, te lo dico io, è successo. Ditemelo, che mi dispiace, mi ha fatto anche pena. Allora, l'ho trovato, è andato non so dove, è uscito, ci aveva in macchina nel baracchino con l'antenna. E c'era questa signora con vari amici, e cosa ha detto, ma non ti vergogni ancora giocando con i baracchini. Noi ce ne risentite di questa cosa perché c'ha tutto un suo modo, è un suo modo di pensare, mi ha tirato tutto e ha detto se ne togliava tutto la casa perché dice che lui non doveva passare per lo meglio del paese. Tutto lì, non gli ha fatto nessuno niente della frequenza perché io gli ho detto la mia, che se a me una persona ci sarebbe permessa di dirmi una cosa del genere, soprattutto perché era una signora, e gli occhi con la signora gliel'avrei trovato io, si sarebbe anche divertita. E Galeghita, ma la conosceva lui questa signora? Ma quella tipa che gli rompeva le scatole l'altra volta, che lo stava cercando, quella lì è? No, rompe. Era, sono andati in giro insieme, facevo un appuntamento con queste qui e poi dice, tra l'altro, ma ancora le conoscevo bene, queste persone, conoscevo quelli che c'erano insieme a loro. E poi ho detto, c'è ancora gente che gioca al baracchino, ma non se ne fa valore giocare con baracchino. Cacchio, così per maloso, di casa di Nafuti, i problemi se io posso giocare anche con le figurine, se mi piace il gioco, usami Nafuti, sono problemi miei, se decido di fare quello, mi dispiace che io pensavo ci fossero stati problemi extra, nel senso di controlli e cose del genere, che magari l'avessero pizzicato facendo qualcosa di strano. No. E da poi cosa c'è da capire, 123 canali, non ha niente di cosa. Sì, no, lo so, però ho detto, mai, nel momento mai aveva provato qualche cosa, sono venuti e gli hanno trovato qualcosa, io mi immaginavo così, infatti ho detto, che strano, cacchio. Guarda, mi meraviglio proprio di lui perché con la passione ribadiva di avere una grossa passione per le radio e solo per una civetta che ha detto una cosa del genere vuole la frequenza, mai io, cazzo. Cioè, è stata maleducata la persona che ha detto quella cosa perché ha interferito nella sua vita privata quando si deve fare i cavoli suoi. Non è che è stato lui che si deve quasi peccare perché aveva l'apparecchio, ma poi non c'è niente di male, perché uno dice io si sono bene a vedere i film porno, giornali di porno, uno si può anche vergognare, dice di quelle cose lì. Ma cazzo, stai facendo una cosa sana, non stai facendo una cosa che può creare delle cose a galatea, al pudore, alla persona, baristana. Cioè, e poi tanto più mi meraviglia che lui si abbia presa per una storia del genere, non lo so. C'è sempre gente che interferisce nelle cose tue, non è bello, non è bello perché vabbè, c'è chi magari per sensibile ci rimane male, io lo capisco anche perché io sono molto sensibile come carattere, tante volte ci rimango male per uno nulla, però lui è ancora più di me. Dalla Gianni. Io ho tanti difetti, però l'unico difetto che credo di non avere è essere permaloso. Un difetto grave è che sono vendicativo, a me quello può essere un difetto. Se mi fai un torto non me ne dimenticherò mai. Cioè, cerco di vendicarmi in tutti i modi. Però di essere permaloso ne ho passato tante di cose, di gente me ne hanno fatto tante, però non me l'ho mai pigliata. L'ho sempre sono un grande saccattore, però sono quello tipo che poi non se ne dimentica. E invece quello è voluto vedere, io a me mi passa subito, poi si incanta con una passa pure a mezzogiorno dopo e subito sono tranquillo. No, quello posso diventare anche cattivo per certe cose, però non sono permaloso per niente, non sono geloso, cioè non sono tipo invidioso di cose, cioè ci hanno tanti difetti, ma il primo difetto che non ho è l'invidia e essere permaloso, proprio per me non esistono queste cose, e ne ho passato tante, nel senso delusione ne ho avuto tante, però però se tu hai fatto un torto e non mi aspettava quel torto, già me lo leggo al dito, non ti preoccupare già. E vabbè, anche quello è bonito, ti credi che sia una cosa bella essere vendicativi? Non è una cosa bella, bisogna sapere anche perdonare. No, già, io infatti è un difetto quello lì, però preferisco avere quel difetto che essere suscettibile alla minima cosa. Io ce l'ho per dire mie figlie, una alla prima cosa arriva e subito ci rimane male, subito cacchio, e poi dopo 10 minuti magari se ne dimentica, se per dire di fare una cosa che gli hai fatto un torto, invece no, io quello no, io non ci rimango male, però incasso bene e me lo tengo per il momento opportuno. Vabbè, dimmi per fa. Fino a 30 anni fa, dai, poi non ho potuto fare, facevo esattamente quello che fai tu tuttora. Allora, semplicemente allenavo, diciamo, una scoletta di cugini qua nella Terroccia, no? E insomma, anche per, sai, per togliermi un po' dalla strada, perché già ho qualche difficile cosa così. E allenavo come ho lavorato questa scoletta, dai, allena la bomba. E io allenavo questa squadretta e poi la domenica giocavo e una persona che è anche parente mi ha visto un giorno e mi ha detto ma cazzo, ma non ti vergogni a giocare in mezzo ai bambini? Quella persona era all'epoca che ero dentro più manco dentro casa mia e non mi ha fatto perdere anche l'indirizzo. Dimmi tu che male stavo facendo. Sì, non lo so, vabbè, diciamo, quelle sono altre situazioni familiari, diciamo, quelle cose di Mari non è tanto bello tra parenti, dai, diciamo, però io sono stato lo stesso con mio cugino per un fatto, per una situazione, tanti anni che non ci guardavamo neanche, faceva peggio dei regali, poi alla fine, piano piano, dai, siamo ritornati, adesso ci vogliamo benissimo, non bene, più che bene, siamo molto, molto oltre che parenti, siamo diventati ancora più affiatati di prima, però quando te lo vado nel cranio per fare cacchio di diversa la musica, io non lo so, a parte se sono coerente, perché non riesco io a tornare indietro, se tu mi hai fatto una cosa che mi ha fatto male, a farmi vedere il doppio sorrisino, a toccarti la mano, non ci riesco, preferisco evitarti e non vederti più. E infatti già c'è ragione, ma tanto era un parente che non anche un po' di coerenza con se stessi, che le cose vanno a finire male. Comunque, facciamo riprendere a Giuseppe, che è un po' indietro, là, e poi a girare. Tranquilli, tranquilli, il discorso lo sto seguendo proprio alla lettera, perché sono cose che, insomma, un po' ti toccano, perché non mi sembrava giusto che una persona possa permettersi di criticare, perché per quanto capito io, quella che è stata rivolta verso Capri è una critica, anche se vi dico molto chiaramente che a me non mi avrebbe toccato manco lontanamente, perché come dice giustamente Roberto, io posso avere mille hobby, come l'hobby di collezionare a 47 anni o 48 anni, figurine che non penso che debba rendere conto di niente a nessuno. E lì sta giustamente a noi, perché anch'io rimango un po' meravigliato, perché Capri, con la passione della radio, con tutto quello che ha fatto, con i sacrifici e tutte le storie che ha fatto per mettersi a posto gli apparati, che molli così di punto in bianco, e niente, anche per me ieri è stato come un fulmine a ciel sereno. Speriamo sia una vera, se no cosa volete che si dica. Nel paese forse funzionerà così, però tiriamo avanti, dai, dai, forza, fai che riprendi tu, io faccio due minuti di bianco che mi faccio una saldatorina al volo. Caparoccia, confermo le tue parole, così è. Se si ha la passione si deve mettere a parte tutto il resto, capito? Quelle persone bisognava rispondere a dovere e niente, è tutto qua il discorso. Riprendi Roberto. Ah, neanche rispondere di esiti e basta, io non li considero, gente del genere no, non li prendo neanche in considerazione, cioè queste cose, perché te lo dice una persona che reputi importante da parte, cioè la reputi una persona degna di nota, diciamo, e te lo dice una di quelle persone, va bene, ma se te lo dice certa gente, è come che te lo dica un bambino piccolino, no? Non esiste secondo me. Certo, se te lo dice una persona che tu c'hai ammirazione, a quel punto ti dà anche un po' di fastidio, ma non credo che questa persona, lui, ci abbia, come si chiama, verso questa persona Capri ci abbia dell'ammirazione, non penso proprio. Solo io non vorrei che ci siano altri motivi, io stavo sempre pensando male a quella situazione di quella persona là, che ci siano stati problemi familiari vari, delle gelosie familiari. E infatti quello l'ho pensato io, anch'io sono del parere tuo, niente di strano che magari ne abbiamo visto parlare, il paese, sai, il paese è piccolo, la gente mormora e compagnia bella. Infatti il primo motivo che ho pensato è quello, e poi il secondo motivo è che ci fosse stato qualche controllo di qualche persona e avesse trovato qualcosa che non quadrava. Poi, però almeno quello non è. Per cui rigiarami di molte volte meglio lasciarli perdere. Vediamo un pochettino chi c'era. Giuseppe ha parlato, Falchetto idem, Gianni, prosegui tu. Io non mi dimentico anche la seconda ipotesi, perché io sono andato a casa di Capetore e abbiamo parlato con lui davanti alla moglie tranquillamente, e la moglie ha detto che lei non è gelosa perché lo conosce bene, che persona è, e quindi ha detto l'unica cosa che posso fare è che se la vedo gironzolando attorno a mio marito gli do una bella sfascia. E nel paese le donne sono cattive, a colpi di mattarella al capo di prima, vabbè dai, stiamo scherzando su fatti che non ci riguardano. Dai, chi c'è? Vediamo se ci sono ancora voi due, chi erano? Yogi, così si chiamava, Yogi avanti. Ma me mi cercate? Ah, ciao Natali, avanti tu allora, riprendi tu. Ci sento un sacco di cose. Ah, ha fatto riprendere. Ci siamo sovramodulati evidentemente. Io ti stavo dicendo, Robert, se a me una persona mi dice una cosa del genere, nel senso buonasera a tutti, se a me una persona mi dice una cosa del genere, io ho sempre la battuta pronta. Ah, mi inici da, hai capito? Anche quello va bene, almeno ci dà un posto. E ma c'era anche questo, così Yugi si chiamava l'amico, o sbaglio? Yugi Carburo, avanti! Sta, fatelo Carburo, dai, dai, continuate pure, la pietra non ascolto, sto guidando. Ecco! Avanti! Cappa, e un controllo sulle 40, me lo date Gianni o Pierpa, fate la cortesia. Sul 40? K. Questo è greco sul 40. K. E Cabu, e dove stiamo durando tu? K, sono di Assunzi. Ah, ma c'è movimento anche tu, eh? Fate come vedere, andiamo. K, movimento. Non mi ascolti di lì con le coordinate. Passaggio 1, 2, 3, prova radio. Io alle 9, radio 5. Carburo, mi senti a me? Sono un portatile. Basta! E un portatile qua, mi zona via Sugis. E Cappa, ti sento forte. Va bene, ok. Ma ciao a tutti. Con l'antenna in gomma, Luca, stai uscendo. Mettiti l'antenna in terra perché sei arrivato troppo basso qua. L'antennino è quello della, come si chiama, della radio. Quello telescopico, cioè. Quello telescopico, aspetta, telescopico. Vabbè dai, ciao a tutti, io me ne passo in QRT. Sono entrato solo per salutare, dai, alle prossime. Ciao a tutti. Che adesso me ne vado in orizzontale, gara gara. Ma cosa stai dormendo, Natalia? No, ho attaccato uno scaldino qua, che è un freddo della Madonna. Mi sono attaccato il riscaldamento ed è un acceso. Già c'è anche il camino acceso, ma... Ma fai dentro il camino, Natalia? Capito, gira, gira, mi piazza una brandina lì. Lavori in ferro, senza nuda, senza le cucine né nuda. Te lo metti dentro, vedi come si scalda bene la brandina. Ti metti la braccia bassa, non troppo alta perché le fiamme poi magari ti scaldano troppo. Ti metti la braccia rossa a rossa, timone sotto, coraggioso, con la brandina in ferro e ti tricocchi e vedi che si mette in esce di fumo. Ma non esce fumo, no. Anche io non esce fumo, non è che invece grigliato io, ma vai a dire. Esce nemmeno i segni della protrattura a rete sotto. Cappa, dai, salutoni Natalia, anch'io ne approfitto e faccio QRT, dai. Ce la riascoltiamo Natale Migliori qua alla stazione Panchetto, sale super, saluta tutta la ruota, dai. Ciao ciao a tutti, alle prossime. Cappa, ciao perché dai, io saluto tutti, anche quelli che ascoltano. Ciao Natali, comunque buonanotte e buon tutto, anche a te fa anche buon tutto e buona giornata per domani, dai. Ok, riprendi Luca. Prendi un attimo la cecca, ma roncola, io sono meglio, sarà meglio. Oggi è giunto in un'officina con due roncole affilargliele. Che le affilate? Io le stavo affilando con la lima, mi ha detto la ragazza e le affilate con la moletta. Gratis. Vabbè, non c'è problemi. La gente da noi passa sempre la rottina ogni 15 giorni, non ci passa da voi lui? No, vabbè, io gli ho detto la rottina, se no è pronto, si è gratis. Ah no, si sente con la toppanante, è arrivato la rottina, ma tutto volume, mi dà la mattina all'8:30, sta girando sempre la zona nostra, chissà perché, perché credo da tutto sacca di nessuno l'ha mai visto, passa solo, ti aggiusta, dice arrottiamo forbici, coltelli e non so che cosa, e poi aggiustiamo anche gli ombrelli. Mi faccio ricordare. Avrebbe essere più, cioè, l'ombrello lo paghi massimo 5 euro, non è che non vai in qualche negozio importante, ai cinesi anche 3 euro li truffi, tanto ti può domandare a portare un ombrello, una baracqua. Vabbè, fare il soldi, ma so che c'era, io mi sono sentato, mi diceva per farlo, mi mai, per farlo, no, si sono spostati a fare delle prove Gianni, Pierpaolo e Giuseppe stavano provando il non so che cosa, baracchino, c'è carburo e Yugi, vediamo se c'è ancora carburo, ci sei? Fatta, volevo salutare sia Falchetto che all'amico Natalino, con QRT a tutti e due, a domani. Ma carburo, c'è come le patate stai vendendo? Come? C'è le patate stai vendendo? Ehia! Il microfono va per un bel cupo, ecco. Sta ascoltando una radio professionale, ti sento malissimo. Capo, adesso lo devo cambiare. Sì, ma cambia, non ti offendere. No, ci mancherebbe altro, io ascolto sempre i consigli. Io ho 20 anni di esperienza quasi, io ho 2 giorni di esperienza, 20 anni quasi. Cappa, adesso prevediamo, dai, il prossimo mese vediamo un po' se lo acquistiamo questo Alan 48 o no. Se non sono 20 anni, saranno 18, più o meno, 17, qui siamo, dai, sono quelli arrivati. Io ho provato il tutto, guarda, qua ti posso dire una cosa, quel microfono lì, guarda, se procuri un telefono da Sirio, anche vecchio, dentro la cornetta, la capsula, no? Te la stacchi e la provi, poi vedi se cade la differenza. Fatto già la mail F16. Cappa, adesso ci provo, se riesco a buscarlo. Si trovano, cacchio, adesso stanno guardando quelli con la videocamera, quelli che mandano i messaggi, perciò quelli lì non... Adesso non vengono ancora utilizzati. Io sto usando il microfono di tavola. Il microfono di tavola ce l'ha veramente Giulio. Tu non hai visto il microfono di tavola di Giulio, Luca? Cosa di uso numero di te? Che costruzione l'ho visto io. Bello, bello. Ne stava facendo anche un altro. Ma è finito, l'hai visto tu? Sì, certo l'ho visto. Ci vuole già più chi va Giulio. Sono ancora non ci passo. Oh, ho avuto giornate di merda, non andare. Oh, ia. Sì, adesso purtroppo, tutta la settimana è brutto, mi Luca, sino a domenica. C'è qualche leggero miglioramento, però il tempo è brutto, addirittura domani notte e dopodomani è prevista neve sciolta, la notte e la mattina presto. Eia, però neve sciolta la notte alle 4 del mattino e poi alle 7 fa un po' di scusatina di neve sciolta. Mamma mia! E purtroppo questo inverno non se ne vuole andare. E io ho paura che farà un'estate, paura diciamo. Speriamo che non esageri, perché l'esagerata ne fa sapere che faccia un'estate torrido di quei caldi allucinanti. Beh, sicuramente sì. Potete non trovare neve domani mattina a Campeda. No, magari neve non è troppo, però trovi un po' di frescura, dai. Ma sei camionista tu? Cappa. Ma tu adesso sei in vettura o in camion? No, adesso in vettura. Ma che baracchino è questo? Intec, che cosa, che modello? Non lo so, non l'ho venduto Pomponio. Ah, cappa, ma come fai tu di nome? Fabrizio, una cosa del genere? No, Giovanni. Ciao, qui. Ma un baracchino serio, soldi ne hai, Giovanni? E da spendere quanto? Ma questo è un baracchino serio però, non è un giocattolo. Quello che c'è un giocattolo? Non so, ma io... Non so, perché non c'è un cambio fisso, capito? Cambio niente, quindi mi interessa uno di quelli da buttarci da una parte all'altra, capito? No. Questo ti posso dire che ha 800 canali, non ti dico altro. Non so, ma alla fine, cioè, magari lo rovino dove ho pensato, capito? Nuovo di fatta, nuovo, guarda, vedi, con 250 euro te lo porti via. Ti ho anche la scatola, la stampa, il capo originale, c'è il manuale dentro, non è mica il capo originale, allora voi, è un bombo. L'unica cosa che devi fare LC per lui sia più forte di radio. Quando anche lui si mette l'ecco, là si che viaggia, ma quasi 20 watt, ma non so cosa dirti. Costa la belletta di 300-310 nuovo, normale, costava qua 800 canali, 10 bande. Ma 8001 lui? 8001, sì. Hanno fatto un'altra versione, il 9001, non so se tu l'hai visto lui. No, non lo so, vabbè, non ci ho fatto caso. Non lo conoscevo, là, l'8001 è bello, bellissimo, infatti appena era uscito la GBC mi ha detto, questo è un signor baracchino, perché tutti l'hanno visto di colore al 48, questo è il miglior baracchino che faceva la Midland. E ho visto su internet il 9001, cioè l'8001 sembra un baracchino di 50 anni fa confrontato a quello, è l'evoluzione dell'8001, però moderno, fatto con un'estetica più moderna, le frequenze di metro più bello, i tasti, tu vedi quanto è bello quel baracchino. Non posso immaginare. Comunque, se ti serve, prendi uno tuo baracchino o Giovanni Carburo, se ti serve, poi ognuno fa quello che vuole. E dopo nuovo, dietro lo guardi, diciamo non è stato mai cagato da nessuno perché il baracchino è nuovo. Dai, vediamo un po' il prossimo mese, dai. Vediamo un po'. Un baracchino sì, non prende colpi, capito? Quindi puoi mettere anche, guarda, se vuoi che sta bene, un apparecchio ti compri, costa 20 euro, quello mi sembra. Il 2000, il microfono con l'ecco, se non puoi mettere la scheda dentro, se no devi spendere altri soldi, però se mi metti la scheda dentro, colt, hai un baracchino con le cosiddette mic sotto, ecco, non dire parola. Gatta. Noi adesso vediamo un po' il prossimo mese. Vediamo un po' nel caso, te lo dico. Che non c'è problema. Vedi tu. No, ce l'ho, è un amico, e non se ne fa niente. Se no farò un sacrificio che per me lo tengo io. Non la faccio modificare, lo uso io come faccio la battaglia. Ma tu ancora ce l'hai la Fayette, Luca? Cosa facevo allora? Guarda, sono convulso. E ti hai detto che quella è la più bella radio che c'è in frequenza, Luca. Tieni di Lugon. Questo è la Fayette. C'è una bomboletta, Luca. E ti ho detto, il più bel baracchino che c'è in circolazione. Parliamo di baracchini normali, dai. Anche questo è la Fayette, Kong. Tappa. Vedi Robert, ciao per pazzo, ti ho salutato anche prima, non uccidi. E vabbè. Questo qua, stavo pensando di modificarlo anche io, ma giusto per farne uso, lo faccio collegamenti, poi vediamo, va. Se quando vado mi prende, aspetta un attimino. Ok, dacci, troppo alte robe. No, da parte mia va bene. Non lo toccare Luca, è un peccato, quel baracchino è perfetto, è un punto di riferimento secondo me, come tonalità. Quando devo dare il conto dico, questo di Luca è il più bello di tutti come era. Se non tocchi la Roinesi, cioè hai già trovato il topo della modulazione e vuoi toccarlo. Te lo so, se no guarda Giovanni, se vuoi guarda qua, 202 lo te lo porti via. Per adesso no, dai, vediamo un po' il prossimo mese. Ma te lo sto dicendo, questo qua è un signore apparecchio, guarda c'è anche il Pierpaolo quella 1, lui c'ha il 3.2 però. Io prima avevo la 48 e mi sono trovato sempre bene, adesso ho una leggera passione per quella farata, magari non è nulla a che fare con quelli utilizzati in voi, perché logicamente magari sono più sofisticati. Niente, adesso vediamo un po'. Tu, se no è un io può fare quello che vuole con i suoi diplomi, per quando non ha possibilità, sono d'accordo, ecco. Però per prenderti la 48, prenditi lo 2001, anche se te lo compri nuovo, però è un baracchino, che non prende colpi, ha lo puoi modificare, lo puoi portare a 10 bande, cioè non è un tuo baracchino, lo puoi modificare portandolo a quasi 20 watt. Ma 48 è un bel baracchino, però non ha quelli di veli. Mi piace guardare le vostre caratteristiche. caratteristiche, no? Buonasera Luca. Giuseppe, se mi ascolti, buonasera. Buonasera anche a te Luca, ben sentito e cordialità come sempre. Giuseppe, come mi stai ascoltando con questo barracchino? Rita lo mette in moto. Praticamente da incorniciare, K. Andavè, che tu sia molto a scala qua. E la radio non leggo. No, mi stavo dicendo a... come si chiama? A Carburo, di un baracchino che ho io. L'ultimo baracchino, verrà lui cosa fare, dai, io non prego nessuno. Se lo vuole, c'è qualcuno che interessa, io glielo prendo, non c'è problema. Davanti, però, per farmi prendere tu, io mi sposto dal baracchino. Poi fai girare. Allora, riprendi tu. E allora Luca, per me non devi toccarlo, questo baracchino tieni, te lo bello conto, a meno che non ti danno i soldi che vuoi tu, però non toccarlo che è un peccato di... non danno toccarlo, cioè hai trovato la configurazione perfetta, radio eccellente, certo la più bella radio che c'è, secondo me i miei gusti, poi gli altri potranno dire altre cose, la più bella radio che c'è in frequenza, pulita, chiara, senza distorsioni, c'è tutta le tonalità, una bomba, niente da dire. Sì, no, vabbè, allora, è questo, anche il microfono vuol dire tanto, questo tipo di... adesso non mi ricordo chi era, ma lo vendi tuo microfono, lo vendi, no, come ha venduto. Ma adesso vediamo, roba, adesso mi trovo senza soldi in mano e, cioè, sono a secco di soldi. Ma se non vedo soldi in mano non lo do, capito, non lo lascio il tempo qua. Comunque, lo vediamo, là, ci devo pensare bene cosa fare. L'8001 ho 330 euro me lo danno, vabbè potrei anche tirarlo qualcosina di più, di meno anzi, e ho chiesto un prezzo l'altro giorno per un amico, ha detto guarda sui 330 te lo posso dare, poi magari con i soldi in mano magari si riesce a prenderlo anche di meno. Quanto? 330. Qui 230, no io ce l'ho, se ti capita non vedi a vederlo, ma se capita magari qualcuno lo vuole, vieni te lo guardi, lo conosco, nuovo. È nuovo, Robert, nuovo. Quanto lo pagate voi l'8001? Ho comprato voi? Io l'ho visto su internet, 300, 10 euro, compreso di spese, più o meno, poi non vorrei dire una bugia, non lo so. Io ho visto 310 euro, però non so se hai compreso di spese o più le spese. Non 2,80, io mi ricordavo 2,80, infatti quando mi ha detto il prezzo non ho insistito con questa persona, mi ha detto sui 3,30 te lo posso dare, perché io sono andato a nome di un amico, ho detto guarda c'è un amico, non è che ha detto che era per me, a me non mi serve, vabbè, però ho detto guarda c'è un amico, dovrebbe prendersi l'8001, quanto non lo potete dire qua, sui 330 euro, te lo... però io mi ricordo che una volta mi aveva detto 280, perché me lo dava 280 euro. Però beh, ripeto, ci ha modificato i canali, il watt 250 nuovo, l'ho usato solo due settimane, non mi ricordo adesso quanto mi ha detto quanto l'ho usato, è nuovo. No, è buono questo, niente da dire. Io vedo gente alla 48 a 450 euro li stanno vendendo, gente fuori di testa, e si ricompareggia. Luca, io sono buono. Avanti Giuseppe, riprendi. Sì, grazie lui, scusate se vi ho interrotto. Allora sono andato meglio io con i 48. Cioè non ho capito in che senso sei andato meglio tu. Aspetta un attimo qua, abbasso. Ecco, quando uso questo qua mi viene meglio. Tra l'altro è un po' una posizione un po' strana da poter modulare. Come prezzo di Giuseppe? Come prezzo e come tutto, perché anche quello che ho preso io lì da te è nuovo. Vabbè certo, voi li siamo di rivista, penso che sia stato contento, non è una fregatura, la cifra non è quella, io non ci ho guadagnato niente, si può dire. Di positivo, Luca, ci mancherebbe altro, non è quello che voglio dire, dico che dai 4,50 magari saranno quelli super modificati o per quello che vuoi, a come l'ho preso io, per quello che l'ho pagato io, grazie a te, e questo non ha un grappio, e poi, perlomeno, io sento che esce benissimo. Si conferma. hai fatto una parola, Giuseppe, va, credimi, una parola. Cioè io l'ho fatto comprare a un mio amico, non nuovo, senza la staffa, un microfono che non era suo. Ma aspetta, no, il microfono non era. Il microfono era un microfono della Midland, quando lui è un po' messo male, un po' graffiato, ma la chi era qualche graffio, poi si è scoperto che dentro era un po' cagato, era ricagato, c'è una saldatura, questo e quest'altro, 100 euro, 100 euro, e poi invece nuovo, nuovo, mi pacca. L'unica cosa che abbiamo fatto è il ponte per poter avere questi 400 canali. Però hai fatto la farone, microfono nuovo, quello microfono nuovo, ma hai fatto la farone veramente tu. E Cappalla, confermo al 100. Non me ne sono pentito, guarda, ma niente, anche perché sto parlando con lui in questo momento, proprio con lui. Ecco, comunque vai alla grande, dai, avanti il back. Nulla, sono Carmuro, che vi saluto, che sono arrivato a casa. E niente, domani ci mancano un po' di chilometri, quindi vado a nanna. Un prosieguo a tutti, ci sentiamo nel prossimo video. Ciao, ciao. Ciao, ciao Carmuro, anche a te, buon quadri, buon tutto, buon lavoro per domani, buona giornata. Avanti, Giuseppe, vi saluto. Cacca di positivo, ciao Carmù, ci sentiamo presto, buon trabacco per domani, dai, e buon tutto, avanti Roberto. Idem con patate anche da parte mia, buon tutto, buona giornata per domani. Però una curiosità Luca, ma tu hai detto ciao, 800 canali questo 8001. Ciao, A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, chi ci manda? 4 volte. Adesso qua 400, non 800. Fate un conto, che sono 300, adesso 400. 10 per 40 fa 400 a casa mia. Allora mi sto sbagliando io, cacchio. No, ne ha di più, Robert, ne ha di più. Ma da 20, da 25 a 30 mega. Anche il mio, io ho l'Inter che sta a casa madre, c'ha 10 bande, A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, e so 400 di canale, fa da 25. 125, mi sembra sino a 29. No, non è di più questo qua, non è di più, fidati. Non è di più. Ma sono le cose che ti toccare un passivo tipo da 800 canali. Chi mi ha dato, ma ce l'ha detto lui. Scusa. C'ha 800 canali. Avevo detto la fesseria, ha ragione anche tu. Sono 400, ma ne ho 800. Ma chi ha detto? Se ne hai 8, no, non è che dubiti che ne puoi avere, ci sono malattie, ne hanno 1000 di canali pure, li ho visti, ti posso dire anche chi sono, però il discorso come le commuto le bande, o c'è doppia banda per dire c'hai A, B, C, D, oppure c'hai A1, B, B1, C, C1, se ce l'hai in doppia banda sì, se no come ti vai a arrivi a 800 canali, non ho capito, quanti commutatori devi avere? C'ha una commutazione, A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, capito? Ma non me lo sale di banda. Poi ho contato, non mi ricordo, chi mi ha dato, mi ha detto che c'ha 800 canali, io ho fatto la prova in, come si chiama, in frequenzimetro, parte da 25 e arriva a 30 mega. Sono 400, no, sono 400, conto, 40 canali per ogni banda. Però ti perba, c'è da dire, se lui arriva a 30 è possibile che ci abbia anche canali in più, perché il mio non ci arriva a 30, l'Inter che base, e c'ha 10 bande, e c'ha 400 canali, però se lui dice arriva sino a 30, vuol dire che c'ha altri canali in più, forse ce li ha doppiati. Ma cosa, dai, ti incanto. Allora poi il mio parte da, l'Inter parte da, anche la banda A, che adesso mi ricordo è da 25, riparto da 25 qualche cosa, arriva fino alla banda L e va fino a 30, 150. E poi, anche se va non ci fa trasmettere quelle frequenze. Oggi non ci fa trasmettere. Non ci fa trasmettere quelle frequenze lì, col baracchino. Non ci fa prova e non ci fa trasmettere. Non si può trasmettere. Non trasmette il dubbio, basta fare la prova. E a vedere se il numero non arriva a 30, l'Intec è quello per i paesi esteri, che poi schiaccia un tasto nella tastiera e ti commuta le bande direttamente. Questo è il mio ciclo, su tutte le bande. Questo lo so che non puoi trasmettere, lo so, noi non faccio la 27 e basta, ma se fai la prova non trasmette, io ho provato, non trasmette. Allora facciamo la prova e me lo dici se trasmette, quindi, a vedere. Vai, ci manca un passaggio, vai a, non so, mi manca la frequenza. Aspetta un secondino, ora così te lo dico subito, mi dici se funziona. Ma se devo trasmettere. Ma io so che trasmette, mi ha aspettato lì con su. Io trasmette, fino a 30 MHz trasmette. Comunque, chi mi ha dato questo 800 canali? Guarda, mi parli da lui, io ti dice subito se ce li hanno 800 canali. E poi te ne fai niente, te ne fai, ma arrivo 45, Bosa, canali massimi, li vedi? Io hai meno stazionarie. Però i canali alti cosa ne fanno, non ne fa niente. Luca, questo qua, l'ultima frequenza che esce, canale 40L29655, questa è la frequenza dell'Intec della stazione base. Ah, 29? 655, questa è la frequenza del coso. Aspetta, ti dico se esce, ti do il colpo importante. Sì che esce, lo vedi? 29685. No, 29655. 29655, aspetta. Aspetta che attacco la antenna, un secondo. Ma sono là, Spaliti? No, faccio una prova, Roberto, ma non lo sento io. Aspetta, ma non lo sto uscendo là, Ma vedete spostate di canale, Luca? No, già siamo qua, Giuseppe. Perché non sentivo più nessuno, Pier Papa. Ma il doppio room è andato a caricare? Non lo so, io non lo sento più, Gianni. È sparito, Gianni, bro. No, non sento più Gianni, non ho sentito più Falchetto, non so se sia ancora qui o se ha chiuso Natalino. Non lo so, io quando sono ritornato ho sentito solo Luca, Roberto e basta. Non ho sentito più né Falchetto, né Gianni né Natalino. No, Natalino se n'è andato, Falchetto se n'è andato. Gianni, non erano pari a te, canale 40. No, no, non è venuto lì perché l'ho chiamato, Gianni ci segue, no, ha risposto. Luca, sei rientrato? Comunque già funziona, mi ha risposto Luca. Lei si è spostato diversamente i canali, no, no, il mio è tutto spostato, ogni canale di 10 parte da 25 spiccioli, ma il mio è omologato, non è niente di fuorilegge, schiaccia un tasto, allora all'accensione, siccome c'è la tastiera, quello lì, di questi digitali, tocchi un tasto in contemporanea e ti appaiono tutte le bande, però non senza modificare niente, è tutto originale. E anche il mio originale, ho provato pure, c'è un codice, c'è il codice e mi dà tutti i 400 canali, poi mi dà 400 canali in FM, mi dà 400 canali con le bande invece che per esempio per dire canale 21 e 27 e 215, mi dà 27 e 200, c'è tutte cose pari, le bande pari, 400 canali tutti pari, e sono pochi marchi che ce li hanno pari. Ce l'ha spazzato un altro mondo, no? Questo c'ha M, FM e bande laterali, tutto quanto c'ha col baracchino. C'ha una marea di funzioni, c'ha le memorie oltre che i canali, tu ti puoi memorizzare 6 canali, no, aspetta quando te ne puoi memorizzare, una decina di canali puoi memorizzare, oltre, cioè tu quando di tutti i baracchini come giri ti fai 1, 2, 3, 4, li lo giri manualmente, però io per dire, nel canale mi voglio scrivere, canale 5 mi voglio mettere il canale 30. Oppure nel canale 1 mi voglio mettere il canale 20. Scaccio la tastiera e mi appare quel canale lì. Le memorie. No, io le memorie ne ho 4. Poi c'è la scansione. scansione delle memorie, posso fare la scansione di tutti i canali dall'1 al 40 e più posso fare la scansione dei canali che ci ho memorizzati. C'è una marea di funzioni invece, diciamo, non credo che ce ne siano baracchini adesso in commercio di stazioni base che ci abbiano tutte quelle funzioni lì, a meno che non vai su apparati professionali. Io che ci funziona che vai tu in base, ti posso vedere che addirittura vuole tanto portatile. Sì, ma questo c'ha, il wattmetro, modulometro, e rosmetro e il coso, e lo smith di potenza. C'è tante funzioni che in uno piccolino non ci puoi far stare. Poi c'ha doppio clarifer, c'ha una regolazione fine del clarifer e la regolazione normale. Poi c'ha il, come si chiama, il misuratore di SVR, vabbè, quello c'hanno, quelli che c'hanno lo, misuratore di SVR c'hanno la calibrazione, c'hanno normale, poi c'è lo squelch, RF gain, Mickey gain, poi cosa c'è? Esatta cosa va? Dual watch per ascoltare due canali in contemporanea, cosa c'ha? Vabbè, c'ha tutti i filtri per i disturbi, poi c'ha, vabbè, canale d'emergenza già impostato e poi altre cose che non mi metto nel manco. No, non sto guardando le cose mie, però è una doppia conversione come ricezione, non è classica singola conversione, ti posso garantire, io ho il 440, ma il 440 non dico che si ruga che è in ricezione, ma forse un peluzzino migliore del 440 come ricezione, è molto più silenzioso, riesce a tirar fuori dei segnalini bassi e bassi e più del 440. Il 440 è un tipo di conversione, mi dirai, il 440 è un vecchio baracchino, da una vecchia generazione, questa è totalmente digitale, c'è un circuito di filtraggio molto più sofisticato, però funziona bene in ricezione, una cagata in trasmissione, lo dico e qua lo scrivo pure, in trasmissione fa schifo, esce malissimo, però in ricezione è una bomba. Sì, ma la trasmissione si può migliorare, volendo. Sì, sicuramente se interviene, ma c'è su internet, mi ho scaricato un programma, senza fare modifiche strane, mi proprio ho fatto modifiche dalla casa, te lo porta, mi sembra, a 18 watt di potenza, puoi modificare altre cose, però rimanendo sempre senza creare problemi di spurio, cioè c'è un circuitino di lì dentro, non so cosa devi fare, c'è un ponticello, devi cambiare, però vuole riallineato l'apparato, non è che lo fai, se no ti crea solo problemi, ci sono di cose da riallineare ed essere di nuovo pulito come prima. E ce ne sono parati adesso nuove generazioni che vanno alla grande, le soluzioni stanno uscendo innanzitutto, sono tutti confinati a MOSFET, tutti con microchip, non c'è più niente di cose, addirittura anche che non prendono colpi per niente. Guarda, io ho un mazzo che è piccolo, c'ha tutti i canali che vuoi, ecco, non prende un colpo di niente e ti dà anche fastidio perché ho altri baracchini più grandi, vabbè, a parte questo e poi anche le superstar che non prendono colpi, ma quello lì è piccolo, è piatto, ma ti dà anche fastidio a me questa collettiva piccolina e non prende colpi. Non lo so, purtroppo, meglio così, anche questo a livello di coso e sbratte, ma poi ci sono dei baracchini tipo l'ANA 48, non parliamo di colpi, perché colpi li pigliano anche quelli più sofisticati, quando inizi a sollevarti il segnale, se ti metti sotto casa, non c'hanno un filtro, questo c'ha un filtro antisaturazione, perché tu ti puoi mettere sotto casa a portante piena, sotto l'antenna, non satura lo stadio di ingresso, mentre con altri baracchini che ho io, se ti metti sotto casa si ammutoliscono, ti distorcono, tutto questo c'ha un filtro proprio fatto apposta per i segnali molto forti vicino, quei segnali 960 che ti hai, quello Smither, questo arriva a 960, non arriva come gli altri a 930, 960 e poi c'è il pezzettino più avanti, cioè c'è molto ampio come Smither, bello, luminoso, bianco, si vede proprio benissimo. È in internet, quello che aveva visto Gianni che stava cercando su internet e poi alla fine l'ha mollato, Intec Multicom 497, di grandezza è appena appena più lungo del 440 per centimetro, però è un po' più basso, però è bello, effettivamente che appena l'ho visto me lo sono subito comprato, perché questo fa 600 euro questo giocattolino, non l'ho preso a quel prezzo lì, io l'ho preso molto di meno, dentro la scatola e tutto quanto, usato, però tu da un 8 più meno di 250 euro usato questo baracchino. Riprendi Giuseppe. Sì, deve essere proprio un bel apparato. A proposito, quello che stavi dicendo tu poco fa, la marca di quel baracchinetto che non prende i colpi, ricordamela. Maxo, CM10. Cappa, non sai quanto mi manca quell'apparecchietto lì. Caspita, una bomba è per guarda. È piccolino, ma già va, è la sua funzione, che ti ha preso in così piccolino. Io penso che avevo preso sostituzione della 48, perché qua c'ho la 48, quello normale, però quello normale non è elettronico come ce l'hai tu, no? E qua è stato molto strano, e l'hai sentito anche ieri, mi pare. Però, guarda, quel GM, quel Maxo GM10 è veramente formidabile. Perché quando ci avevo la 48 sul 3 assi, mi hanno pensato se era impossibile, perché comunque guarda che era sempre molto. Allora ho preso quello lì e mi avevo assicurato, l'ho trovato, no, questo è tutto l'angolo diverso. Infatti come l'ho montato, potevo passare anche vicino, mi passavano il camion vicino lì dal 131, e infatti a manco un bel bucava. C'è stato qualcuno che vuole entrare, chi è avanti? Gli apparati comunque sono buoni. Io mi sono trovato molto bene con quel Maxon, perché mai credevo che un apparino così potesse dare prestazioni allucinanti come le ha date. Aspettate, c'è stato qualcuno che vuole entrare, avanti che entra. Buonanotte a tutti. Ah, allora ti ho riconosciuto bene il doppio bip. Ciao Antonio. Sì, saluto a tutti. Ciao Giuseppe, ciao Pier Paolo e anche Roberto. Cappa di positivo. Buonasera Antonello, ben sentito. Cappa, ha provato la collaggeggio? L'ho provato Antonello. Io stasera ti ho anche cercato. Si è fermato Simona, ero giù in campagna stasera, vicino con la Politù. Stavo con la campagna e quindi sono arrivato verso le 7 stasera, quindi sono tornato anche un paio di volte. E basta, va, non c'è problema. Io sono a casa ormai, se vuoi passare sono qua. Ho trovato la cosa, esce stato, esce, come esce? Satura esce Antonio. Allora bisogna provare con l'apparecchio che devi utilizzarlo e fare la regolazione giusta, naturalmente, lo sai. Usi massimo 10-15 watt, non di più, bisogna pilotarli, se no c'è stato per forza. Oh, scusate un attimo. No, non ci sta problema, dai. Ci sta anche Vela insieme a noi. Avanti Pierpaolo. Buonasera, Popolo, non lo sento molto bene stasera, Oh, scusate un attimo, intervengo io, scusate un attimo. No, vabbè, io devo lasciarvi, dai. Buon proseguo, buon proseguo, a tutti e tre, per Paolo, Antonello e, come si chiama, Giuseppe. Poi eventualmente tutti gli altri ascoltatori, vabbè. Io interrompo, QRT definitivo da parte mia. Ciao, ciao, buonanotte a tutti. Roberto! Poi, dimmi. Non puoi attendere 2 minuti che ti faccio sentire una radio. Dai, sei 2 minuti, sì, dai. 2 minuti che l'attacco. Pronti? Ma c'è la Luca, che fino a fa? Luca ancora ci sono. Sono anch'io, Roberto. Ma tu sei appena visitato, non ti sei mai allontanato? No, sono sempre qua. Che cazzo, io non entri, però io me l'ho messa dimenticata di te, tu. Tanto a me l'ha fatto, ho sentito prima. Pensavo non ci fossi più, pure tu. Vabbè, scusa, non ce l'ho fatto caso. No, io sto sempre buono, buono, zitto. Comunque Roberto, anche questo ha fatto accolti, è tranquillo, non è piglia. Sì, se sei vicino al vicino sento qualcosa, ma però no, non mi disturbi più di tanto. Questo Intec 550. Dunque, la 48, quello normale, normale, quello prende abbattimenti a Carasci. Invece il DSX, no. DSX, quello nuovo che è uscito, no. Non è così. È selettivo come questo. Sì, ma anche l'8001 è un buon baracchino, cioè a livello di ricezione, perché è inutile che uno sia troppo strozzato, nel senso non piglia i colpi, però non riceve nulla. Chi visto pure un baracchino così non piglia i colpi, però non c'hanno nessuna ricezione. Questo Intec che sto dicendo io non piglia i colpi, però c'ha una ricezione fenomenale, sto dicendo è allucinante. Mentre il coso era 48, mamma mia, abbiamo visto. Poi non parliamo del Mobicom, il Mobicom non prende i colpi, però non riceve, segnali bassi bassi non ce la fa a prenderli. Roberto, dimmi. Questo è l'Intec H520 Plus. Questa è una bella radio. Aspetta, voglio sentire una cosa. Fammi sentire i livelli, mi sembra il bassino all'orecchio. Prova un po'. Guarda, a vedere come esce questo apparatino. Sì, bella, mi piace. Un po' più forte dovresti uscire però. Un po' più forte? Non so se poi, che microfono c'è qua? No, questo è il suo microfono originale. No, la radio è chiara, è pulita, niente da dire. Se potresti, diciamo, mi va bene anche così, niente da dire, però confrontata con le altre più forti, diciamo, sei un po' più basso. Teoricamente potresti sollevare, naturalmente senza sporcare la modulazione, perché è inutile sollevare poi sporchi. Questa è pulita, chiara. E cos'è che è Intec che hai detto? L'H520 Plus, questo adesso è senza il processore inserito, non c'è processore adesso. No, la voce è chiara, sembri qua a fianco a me, la pulita. Prova per curiosità il processore. Adesso questo è il processore, così come adesso. Ma non te l'ascolta più di tanto la voce, dai, più o meno simile a prima, non è cambiato più di tanto. E diciamo, forse un po' pochettino più forte, dai. Capo, ma già va bene, no? Come apparato. A voglia, benissimo. Perfetta, qua magari potresti provare con un microfono a tavolo che spinge un pochettino di quelli che non distorcono, così si può dire anche qualcosa di meglio. No, Robè, è l'H520 portatile. Un portatile è questo, non è un veicolare. No, già si può attaccare anche comunque il microfonino esterno, Si può attaccare il microfonino esterno, c'è il processore, 400 canali, AM, FM, tutte quante cose. No, bestiolina, no, va bene, no, niente da dire, va benissimo. Quanti watt c'ha quello lì? 5 watt? Allora, questo va da un minimo, diciamo, la regolazione da 10 milliwatt a un watt e poi 4 watt. No, va benissimo, no, non lo conosciamo come apparato, funziona benissimo comunque. Io abituato a sentire quegli altri fissi 40 canali, questo deve essere di nuova generazione. Sì, questo è l'ultimo uscito della Intec, l'H520. No, se vuoi fare una prova, se vuoi andare sul 45 ti faccio vedere come modo anche lì. Aspetta, vai sul 45. Scusate. Faccio un comodo. Grande questo PL mio. No, quello che sto, quando togli l'antenna è BN5, quello lì è pieno attacco PL. Già c'è, te lo faccio vedere come è fatto. E già c'è. No, io adesso qua lo attacco all'alimentatore, perché ho gli attacchi tutti quanti all'alimentatore con la CD sigari, no? E poi è attaccata l'antenna grande con il suo. Hai visto quel coso a molla, no? Che c'era l'attacco per il PL, lì è attaccato. Ho capito. Solo quella, perché non riuscivo a capire come mai il mio non attaccasse, però adesso sto cominciando a capire. Tu lo devi attaccare. Allora, il capo antenna che c'ha lo attacchi al PL dell'antenna tua e poi lo attacchi all'alimentazione. Però ricordati che quando lo attacchi così, ma tu attacco a cene sigara non le hai a casa. No, negativo, Pier Papa. Già te lo puoi fare, però. E devo comprare un attacco a cene sigara, Non ne hai, no? No, negativo, no, ce l'ho solo in macchina l'accendisigari. No, se lo vendono magari, se la spesa non è eccessiva, lo posso anche prendere, dai. Già si può fare, si può costruire, si può, con la corta, costa 5-6 euro, mi pare la branca, l'accendisigari, e poi mettere due bananine col cavetto non costa niente. Anche perché delle volte è comodo usarlo anche per farlo scaldare un pochino. Infatti, no, io lo uso anche in macchina. Ma in macchina sempre con l'attacco dell'antenna esterna? Sempre con l'attacco, questo attacco che sto usando qua, il medesimo. E allora un giorno quando capita, Pierpa, me lo fai vedere e mi faccio la fotografia e io lo faccio uguale. E il capo è facilissimo, già te lo faccio vedere, dai. Capa di positivo, grazie Pierpa. E avanti chi è rimasto? Se non mi ricordo male, Pomponio, Pombo e poi chi altri? Sono io qua tutto, non so chi è rimasto. Allora se la riprenda lì, signor Pomponio. Mi dica, dottore, non c'è problema. Mi sono attacco BDC, PL. Ci sono un sacco di qualcosa da Fusano. Mi sembra stato manco lì, 1,50 adesso mi ricordo. Ma sono alla GBC? No, da Fusano. Ah, da Fusano. E io c'erano lì un paio di quelli, perché mi servono per le cose per due carte e cose del genere. Allora magari quando esce faccio un salto e vediamo un pochino, dai, non ci sta problema. E Bombolo, tu ci sei? Io ci sono. Ma lo vogliamo far saldare questo microfono, mannaggia. Facciamo scaldare. Guarda, non è facile fare quell'attacco lì, dai. Almeno qualche volta a casa ne togli due batterie e lo attacchi, dai. E infatti, anche perché io ogni tanto lo accendo così, però senza modulare, perché qui da casa non è che riesco a prendere più di tanto, però giusto anche per farlo funzionare, mi hai capito, Bombolino? Ma io ho un signor portatile, è il topo del portatile quello. Già te l'abbiamo fatto vedere quell'attacco strano che ha. Uno va all'antenna e uno va all'antenna e allora uno accende i sigari. Capa di positivo, questo deve essere una bella bestiolina e fuori, all'aria aperta deve essere una bomba questo portatile. Sì, no, va bene, se le batterie buone va. Pierpa, le batterie gliele ho prese tutte e sei uguali. Avanti, che stava entrando? Sono anche io, Giuseppe, ma un conoscito che mi ha dato a cavo a me, l'ho provato con il 48 PTCL, a vedere come esce. Ci ho capito, Alessa, dimmi. Ti stavo dicendo che si è provato un conoscito che ho prodotto a me a casa. la fai modificare. Se va bene con 48 XXL, si è provato in casa. No, con quello non l'ho provato, l'ho provato con il multi. Che prova con lo XXL, un secondo, quello che è fatto a casa tu, con la modifica passiva, ti ricordi? Prova con lo con 48. Io dici con lui, con il microfono amplificato quello che è, attacca con l'aggeggio, vediamo come esce. K, aspetta un secondo. Ok. Allarga un pochettino. proprio dietro la resistenza che hai messo? No, non quella lì. Più giù, c'è una bobina che va vicina di colore, color rame. Tu puoi dire perché il rame è smaltato, uguale. Tu vai con la rame smaltato, allarga un pochettino. E allora ho un numero cacciavito, perché adesso io ne vedo tre di bobine qui. Due sono già larghe e un'altra con il rame smaltato è tutta chiusa. Quella che è tutta chiusa ha pesato la pena. Aspetta un secondo. Passati lunghi, non c'è bisogno di avere cacciato i temi. Avanti Antonello, adesso l'ha portata la pola. Allora l'ha portata la pola. Aperta l'altra pola. Ok. Mi sembra che riesci leggermente meglio, la verità. Vuoi che la larga appena appena esce dall'altra? No, no, lascia così che sia la pena, c'ho picchi positivi, lasciala così. Adesso non lo so come ti ascolta Luca, perché Luca è vicino a te, comunque prova a sentire Luca come ti senti. Luca, bisogna? Luca non c'è, Rena ci sei? No, papà. Cosa sembra? Ho bisogno più lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sotto 8, 9 e 10. Guarda, c'è appena appena in compressione, non si può. Chiamare saturazione, io per me la c'è così, appena appena di compressione si sente, ma niente di più, dai, va bene. Adesso vogliamo fare un passaggio per Antonio Albavolo. Antonio, vedi se vai copiando la radio di Giuseppe, cappa. Giuseppe, fa una cosa, aspetta, invece di farla a una ventina, no, una quindicina e più di centimetri dal microfono. Carta di positivo, così sono con i buoni 15 centimetri lontano dal microfono, Pierpa. No, riavvicinati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allora, avvicinandoti la saturazione sparisce, allontanandoti va in saturazione, c'è ancora qui, dai. Allora, Giuseppe. Dimmi. Allora, la bobinetta quella che ci è stata data la resistenza, adesso la spinge appena appena. Vedi un po' così, cosa sembra? Adesso è perfetto. Prova. Attenzione prima per Giuseppe K, prova radio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E a quanti centimetri sta parlando? Adesso quando sono loro sarà a 7-8 centimetri. Distaccati 15 centimetri, famosi, vai. Via, così ci siamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ma te avvisi, buon po' sempre uguale. Non è uguale, per niente, perché io sento molto meglio. Io sono più distante di te, la verità, e quindi io sento molto meglio. Non so cosa succede, dunque io sento meglio adesso, una verità si dica. Lascia così, se la distanza va molto meglio, dovete provare con forza, con capri due, quando lo senti domani. Ho l'impressione che capri due e stare in un bel posto e fa sentire quanto. È vicino, già non si sente, si sente la compressione, basta. Sì, guarda, tu già hai detto domani, capivo, non preoccuparti, non sparisce, Giuseppe, te l'ho detto l'altro giorno, per me che ciò che ha detto non vale, sono scuse entrare, capito, Giuseppe, quindi tu hai già detto, capivo, non preoccuparti, c'è qualche altra cosa sotto come ti ho detto io. Capito, positivo, dimmi una cosa, ma con la rotella più tardi di quello prossimo, con la velletto, sempre ferma quasi a tre, l'altra quanto la devo mettere? Tutte e due a tre devi metterle. E adesso con un attaccato si è peggiorato o migliorato? No, no, sei sempre compresso, sì, sei sempre compresso. Addirittura un po' cracchiante pure adesso se vogliamo. Io lo sento bene, guarda che dire che tu sei compresso mio che fa. Non sono io. Si è appena compresso anche tu la verità si dica. Non ho capito, non l'ho detto, anche tu, Pierpa. Io sono compreso. Senta, senta, sia, ma la tua confesso, non puoi dirmi come devo, io ti ascolto così come stato a parlare. Io non so, vuoi dirti? Sicuramente sono compreso, ecco. Sicuramente sì che sono compreso. Anzi, sono in saturazione. Non sei esatto, non è stato accento, ma è sbuo. Ma che mi ha tirato per Roberto la verità. Roberto, quando siete in ovulazione, sei fuori, sei qua all'altro, ti fa smontare il politico, quello che ti sento io. Comunque, tutto davanti qua, non ti viene l'occa. Io non lo so. Magari mi sbaglio anche, però ne so io. Io ti sento così. Quindi, dunque, Giuseppe, provalo domani mattina a distanza. Metti tu al limite buono, se c'è la casa tu metti al limite in macchina, trovi in macchina, quindi metti un mese con la gente, va? Esatto, vai, proviamo a fare questo ultimo passaggio, vediamo un pochino se adesso la palazzo ha saldato un pochino, vai, vediamo un pochino come va. Qua sono 9 e 10, se non mi sapere, sono pronto, 9 e 5, quando stacchi c'è da 5. Brava, brava. E tutto bene? Tutto bene. Bene, nuova. Sotto compressa o satura? Cosa dite? No, c'è la compressione, così si è compresso. E basta, la saturazione così la soluzione. Ma quando la lontana sicuramente anche perché l'ho verificato. E magari metti un oro amplificato, non saturo nemmeno, eh. Ok, papà. E papà, quando usavo io il dicevo 50, quando l'ho fatto i due, di qua a casa, anzi non di qua a casa, quando l'ha usato il coso Salvini, usciva a saturo. E mi è capitato una resistenza. Usciva a saturo lo stesso. Quando l'ho usato a tappo i due, usciva perfetto. È perfetto proprio come è uguale, è lo stesso lineare, invece di niente, non cambia niente. Addirittura quello che c'ho io c'è il regolatore, c'è il trimmerino e cose del genere, non ho neanche toccato io quando gli ho toccato i due. Ma è stata per la sua e non è stato per niente. Purtroppo quando siamo vicini è così la cosa, con quei lineari. Poi questo passaggio qui, altrimenti, questo va a cambiare il microfono. No, sei perfetto, lo lasciamo così com'è, no? Siamo a Sassari, capito? Siamo troppo vicini. Non è che c'è un guarda guarda per dire che si satura. Sì, ha dato la compresa, ma va bene così com'è, è comprensibile, è proprio perfetta. Tutto lì. Come se io parlo quando c'è la guarda la cosa, la moto che avevo fatto, lo guardo quando sta pompando. E perciò si dimentica la cosa, non cambia niente. E che siamo vicini, se tu lo trovi distanza la cosa cambia. Tu guarda capi due come esce con quello stesso lineare, preciso identico, stessa risposta, stessa modifica, stessi watt, non cambia niente. E lui dice bene, strano, me lo spieghi tu. E calma, adesso voglio provare un attimino, lo sono andato a prendere questa parata, vedere come fa. Non può fare più di 15 watt con la lineare, anche se ti si incendia, tu lo facendo in partenza, perché la resistenza si va più di 15 watt, si incendia al finale, te lo sto dicendo. No, gli apparati che io sono tutti normali, tu li conosci tu i miei può provare anche portato, al limite si può provarlo, non lo so. Adesso li prova per c'è stato con dirci cosa c'è a fare. La bici APL, comunque, come dire va benissimo, è perfetto, non c'è nessun problema. Quindi sono stato anche in macchina domani, se vuoi, io farò l'attacco dalla batteria, come si chiama l'attacco in macchina, vedi come esci. Papà, questo qui è il numero 93 di microfono. Migliorato? No, meglio l'altro. Ah, era meglio l'altro, ha poco preso. Allora stacco questo, metto l'altro, dai. E che fa? A te cosa sembra? Ma adesso è proprio la saturazione, c'è proprio, eh. Ma lineare più volto io, sapevo che lui dice bene, invece quando mi usciva male quel lineare, lo spieghi? E non si capisce, noi possiamo uscire da lassù domani, è un fatto la prova, dal suo al mio, a quella differenza che c'è. Questo va meglio, lo vedi il microfono, spingi di più. All right. ciao, forte Giuseppe, dai, ci sentiamo domani, ciao ciao. Ciao Giuseppe, buonanotte. Ciao Gianni, mannaggia, ti abbiamo cercato un lungo ritardo. Beh, mi sono addormentato Giuseppe. Cappa, e noi ti stavamo aspettando sul 40 per quella prova. Mi sono proprio addormentato, l'ho finito, perché oggi sono dovuto andare al dentista presto, non sono riuscito manco a riposare dopo pranzo. Ehi, campa, vai, vai. E non fa niente, già ci mancherebbe altro, capita, quando uno è stanco, e non c'è cosa che tenga. E è entrato anche il tempone qui sul 10, non so se l'hai sentito. Campa, Pomponi, l'ho sentito poco fa, ciao Pomponi, vai. C'era anche Antonio. Ma già, sei in macchina, sì. E io? Ma che cappa, non l'ho immaginata. Ma ti sono immaginato nudo in macchina con un maniaco, con quanto che c'è. Non vergognati. Sì, sono uscito perché si escono tutte le donne nei locali, capito? Vado a violentarmi e tu. Non sono andato con macchia a quest'ora. Lì tu non puoi capire le cose perché non hai figli. Male, senti addio. Se avessi avuto figli avessi capito. Sei già un dio già, meglio niente. Giuseppe, ripetitela. Addio tesorato, mi chiamo Giuseppe, buonanotte, allora si sta chiedendo. Anche Antonio. Ah, eccomi qua. Ciao ragazzi, ero preso un vocale di dromito, mi sono dovuto alzare adesso. E infatti mi ho lasciato anche il pigiama, non mi vergogno a dirlo, se no crepavo di freddo. Ciao ragazzi, cosa c'è? Perché uno non se lo può mettere? Ma mi spoglio, se lo porto nella mia letto. Temperatura mi crepava. Io bombe di freddo mi fura. Ma i gradi ci sono tu? Gappa, tu prendi le maranzucce. Hai l'impressione che siamo tutti tru. E va a dove metti il vanille, lo sai? Ma infatti, a voi tu prendi alla grande. Allora, gabba, io sono arrivato, 5 minuti, squillo il nido e sto andando. Giuseppe ha chiuso? Ia, Giuseppe mi sa che ha chiuso. Se ne stava per andare e ha detto, Giuseppe. Ragazzi, ciao. Viene un freddo, capo. Vabbè. Riprendi a tu che così parto, Gamba. Scommetto che ti siete rimendi da un freddo. Ah, pure in occhi marazzutti, gamba, è freddo, Non sono perché te l'ho detto quello che ho fatto, mi sono lasciato il pigiama sotto, se no cambiamo le tue temperature, mi avrebbe ammazzato gli addormiti. Ciao Pompone, buonanotte, dai, ci sentiamo, avanti a te. Buonanotte Pompone. Grazie Cauccio. A domani. Ma poi di chissà cosa, a Roma come ti intendo una volta battuti. Imparati bene al terrazzino, avrà a vedere che c'ha bomba, come ti dico io. Aspetta, te lo faccio vedere io, Se non stato in Gibi, un dia Pomponio, number one, avrebbe stato davvero, ma l'antenna, non molto grande, ma avrebbe stato la premessa passata bene. Oh, Iulia. ia. Ia ia. Ma Pomponi non le può piazzare perché c'è capo condominio e è contro e quindi è un casino. Ma nel suo terreno la può piazzare sì, che magari di denuncia. È casa sua quello. Ma non può manco la mamma, mi pare. Sì, la via posta nel mio terrazzino, la vuoi? Chi me lo deve dire a casa mia? Certo, se lo fa dall'altra parte, allora comincia già a rompere il carattere. Ma nel mio, nella mia proprietà, nel mio terrazzino, lì come buca fuori, eccetera, io la metto e tu non mi fai nulla. Pianto. Tocca se batte a casa, si va, mamma mia. Non so qualche cosa io. No, ma lì non si attacca nessuno. Non penso che nel suo corso si attacca. Certo, se la mette più là, allora non come scappa. Se la pone chi vi già andava perché. Sì, ma è bello che la potrebbe mettere anche più là. Nel senso, sopra il tetto. La potrebbe mettere per legge tranquillamente, anzi se li impedisco che chiama le autorità competenti, li obbligano a fare la piazzata. Capo, ma io guarda, per non rompere, cioè, fanno fra, eccetera, eccetera, l'avrei messa. Tanto lui è già sul tetto, mette un palo, una cosa attacca lì al terrazzino e vamos. La pagata. Niente, è la sua proprietà e nessuno li può di nulla. Tanto ma tu sei meglio di me, non manterà niente, non li posso dire ma li dico. Sì, che non comandano loro, se ero stato lì all'ultimo piano come lui io l'avrei messa. Mancari, come te ne aiuti, ma a trovare i dini a ti figurare il cari. Ti avevo portato con la 20 metri, io si arma così, oltrepassavo il tetto. Oh, l'ho messa lì, avrei messo 5 metri in faro durante basta. Dov'è quella lì adesso? Lì, in quel punto lì. Gara, gara. 3 gradi e mezzo, Antuca. Si appassa poco nei ricchetti. E tu? Che si appassa appena la temperatura lì. Vedevo un grido già. Gara. Ma non ho detto che mangia la neve giù il discorso, non so dove, ma salve che c'è la neve. Ma adesso si buffa in via. Ma adesso mi sembra più caro, vabbè, io spento la macchina, con i finestri tutti chiusi e le scatolette accese, ma non mi sembra che ci sia molto vento adesso. Non qui, è che non faccio niente il fatto più caro, se non te lo posso intendere, non che buffende. No, lo vedo dagli altri, dai. E tremurando tutto. C'è il vento, vedi cosa succede. Molto arrivato, là, ti lascio. Ti saluto e ti auguro buonanotte, dai. Facciate buonanotte, dai. Poi io chiudo, ciao, buonanotte a Pomponio, se c'è ancora. Ciao.